non ti capisco cosa devo dire, ti capisco. Io non c'è problema per quello. Stavo facendo una battuta più che altro. 5 minuti. Se ti decido niente. Io ho detto che non ti capivo quando parlavi. D'accordo, ok. Aspetta un secondo. Ti ripeto, 6-7 come segnale, 6-7. se non parlano questi rumeni ti ascolto, altrimenti ti coprono. Niente. Mi sta splatterando col baracchino Antonello dal canale 5 col 4.40. Una goccia allucinante. Lo so, forte quella radio. Sì, forte di spurie. Lo so. Cioè, a entrare nel 4.40 o 5 cose di scatto, non l'ho mai sentito io Antonello. Aspetta un attimo. Io mi sono analizzato il rispetto, lo vedo subito quanto è forte, quanto è fuori. Porca di dai. Natali. Cerca di migliorare un po' la radio, mettere qualche amplificato, qualcosa. L'antenna bisogna mettere a posto allora. Bisogna mettere a posto l'antenna. Ehi, c'ho il lineare attaccato anche, pensa tu. Adesso le rompo il culo io a lui, gli vado io il lineare. No, non è a te, no, Natali. No, non è a te il lineare, è all'altro, un pochino, se fosse più forte come radio andrebbe meglio, diciamo, dai, perché 6.7 va bene, ma se la radio fosse un pochino più forte sarebbe stato meglio. Sì, adesso arrivi 7.8. Che c'è? Chi è? Buonasera a tutti, doppio room da questa parte. Ciao Gianni, buonasera. C'è Natalino col frigorifero. Allora, Natalino col frigorifero sta uscendo, però almeno arriva, hai visto? Gente che non arriva manco con l'antenna, Io ve ne ho portato la marmaglia. Gianni! Come sarebbe a dire col frigorifero? L'antenna magnifica sul frigorifero. Allora! Beh, così sono riuscito anch'io tante volte. La magnetica mettevo sul frigo e sparava anche sul termosifone, papà. Va bene, sì, ma sul frigo è più alto, capito? C'ha più massa. Poi chi è arrivato? Vediamo. Rata Pignala, ci sei? Eia. C'è Natalino che sta cercando una radio, però vuole spendere zero, a quanto ho capito. Natalino, ci sei? Grosso modo bene, dai, insomma, per il mio orecchio sono di bocca buona io. Ah, quindi sei già a posto a radio, dai. Se no io stavo dando questa radio qua, Natalì. È un Magnum, è Omega Force S45, ma tanto non lo darò mai. Claudio, come sto uscendo? Bene, ma tu esci bene con i baracchini che hai. Ma guarda che Natalino sta uscendo bene. Se mette l'antenna esce benissimo. Perché c'è il segnale basso qua da me. Magari voi lo sentite meglio. Io lo sento intorno al 4-5, capito? E quindi si porta presso il fruscio, dai. Antonè, se tu riattacchi la linea e te ne vai nel 5 ti distruggo, ma ti immagini di me la splatterelli con il 4.40? Roba di spughi e manda sul lineare. Dai. Arrivi, attimo tu arrivi così. E ti passa pure. Scusa, le cose 4.000. Mi piace la comunicazione, passa. No, non lo passi, Cla, non lo passi. E ovvio, ma tanto fatte, va. Scusa, le cose 4.000, ma ok. Quindi, non pigliatela con me. E con 100 watt con un vintino. Quindi piacere con loro, eh? Ma prendo con te, adesso metto 50 watt, ma prendo con te perché non c'è bisogno di attaccare il lineare, capito? Ma lo beh. Guarda che io ma quello si è dovuto evitarmi. O come 4.000, nulla, non arriva neanche... Nulla, ma io non sento per niente... Lo passi sotto, ma no, non sopra. Io aggiungi 4.000, invece che faccio esci. Prima di copiare il 440, non ci sia mai, da poco che l'ho riparato. Ok, dai, mando le ciance. No, Antonio, davvero, ti sentivo. Cazzo, ti sentivo, non sentivo Natalino, sentivo il bip tuo e gracchiare, capito? Avanti, Gianni. No, qua non faccio più club, qua a casa non faccio più club. Però, vabbè, no, l'attaccata solo perché c'è uno spagnolo per farsi sentire, l'attaccata solo per quello, sono io testimone. Non voglio giocare, no. Scusa, la Stefano, ma c'è qualche vasco. E per la Capignara, quindi questo baracchino non lo vendi? Ma sparito, a magna è andato, un pipistrello. Ha detto che andava in bagno. A comprarsi la droga è andato. Ha detto che andava in bagno, che ci sta... Per forza, non tutto quello che ci mangia, glielo gridoci. Comunque, Antonè, sei largo di banda, cioè sei, ce la metti spugna, tu e Marco Condor. Invece Gianni Ferrone non ne ha neanche Claudio. Sono stato ancora in 4.000, non mi affidate con me, la verità. Altro non posso fare. Ciao, stai, buonasera, ben sentito. Buonasera, no, perché me la prendo con te, per carità, non sto dicendo niente, sto dicendo che io al mio... All'esattore rispetto della radio vedo che sei molto molto largo, ma un bel, tu e Marco Conno. Lo so, quello che scontro mio è suo, quindi pigliatela con lui, me l'ha regalato lui. Non sto usando le C9 e neanche il coso, l'altro apparecchio che c'ho, quindi. Ho attaccato per il tempo perché c'era uno spagnolo, stava chiamando, poi ho preso e attaccato. Adesso mi stacco perché tanto non ne faccio niente in città. Buonasera a tutti e due. Me l'ha ascoltati. Adesso un liscio. Ma perché cazzo ridi? Non ho capito, dimmi. Perché ridi? Ma cosa devo fare? Piace, ascolta. Stavo parlando, guarda. Ma c'è sorridere perché è entrato lo spagnolo, la verità. Ho fatto una chiamata, poi sei entrato tu. E gli ho detto di passare su questo canale qui perché dice su 5 dice ricevo colpi, non ti ho detto niente, infatti non neanche hai parlato, e lì mi è venuto la vita, ho detto ma sappiamo colpi, claro, non è possibile. Colpi? Ma quali colpi? Colpi ti do io in testa, sentivo il tuo bip e mi coprivi a Natalino. Vabbè, arrivata gente, io volevo salutare, dai, ci sentiamo dopo, ciao. Vabbè, non ti preoccupare, non è niente, là, non ti arrabbiare. Per rispetto, se hai bisogno, siamo a 50 metri e ti buona sorta a lineare. Ciao, Spalè, ciao. Ciao, stai, dai, ci sentiamo dopo, è arrivata gente, se no qua c'è un casino, ciao. A dopo a tutti. Ciao. Perché Finocchio, Pomponio? grazie. Qui un altro sozzone. No, c'è qual è il problema, Marco? Io non c'ho lineare da 50 watt, da 100 watt, e io non ne ho uno da un kilowatt e mezzo. Quindi se poi attacco quello come facevo prima, allora succede casino. Quindi evitiamo queste stronzate, sennò poi diventa Monello e vi crepo tutti. Ci sentiamo dopo, Gianni le prendi. Ciao Claudio. Sta quieto. Avanti Stefano, buonasera, avanti. Buonasera. No, già, io come dicevo poco fa, aspetta un attimo. Aspetta, c'è stato un break, avanti chi è? È la Spagna che chiama. Aspetta. È un break off, femminile, avanti break off. Un attimo, sono al telefono. Ho detto che hai detto, che vogliamo, che voglio sentire. Avanti, Becco, buonasera. tarde, 30 divisiones por aquí, está la estación primera para Mal Cuereo, pero Antonio, esta es la Sardegna que te llama. Vamos a ver si escucho la estación primera Farima, Cuereo, Pedro Antonio, Isla de Sardegna, Ciudad de Sassari. Adelante. Ok, te escucho 100%. Ok, está hablando Pedro Antonio, está a mí, pues está en el Chambi. Me estoy encasillando, aspetta. Gianni, sta però e Steven, dalla isola di Sardegna, signore Sassari, adelante, per te. E con tutto sta Santiago 5, Radio 5. Contento, hermano. Te mandaría la estación que está hablando conmigo en este momento. A ti, Esteban. Esteban. Atento, mi hermano de la espada, se va a escuchar el operador de Gianni Doppio Rumba, la ciudad de Sassari, que te va a llamar. Ah, tu ti ascolta, ce l'ha clava addirittura. Quello di poco fa era più forte. Era più forte quello di poco fa. Antone, c'era una rotta qua, tu ti fai di ex, non ha giù un preso, no? Ma se mi ha chiamato, cosa devo fare secondo te? Avanti Marco, chiamalo che tu, cazzo, fatti un bel di ex con questo spagnolo, va? E poi lui ha chiamato la divisione 34, noi siamo alla divisione 165. Ole Spagna, allora, nada di ex, nada di ex, QSO local, QSO local. E appigliala in culo mi. Ma chi sei di QSO local? Stanno parlando tra di loro, mi. Lui è la divisione 30 e l'altra è la divisione 34, che è intorno alla Spagna, credo. Boh. Noi, ricordati, siamo la divisione 165, la Sardegna. Non lo so la verità, Marco, comunque ti ha sentito, perché hai detto che tu sei in pratica in questo locale, ti ha sentito. Quindi rispondigli, perché io lo sento qua, sento c'è la tengo 5 e 6, perfetto. Oia, Gianni subito ha sentito che attaccatomi perché era leggermente saturo. Oh già, riprendi, dai. Stefano si è allontanato, no? Claudio, c'è gente. Quanti siamo? Natalino, c'è ancora? Ehi, ma quindi hai già acquistato la radio, sì? Compresumi, va bene, adesso ti manca solo l'antenna giusta, io mi sarei messo una mezz'onda, mi, Natalì, è verticale, non ha radiali, di russo, guarda, di russo, riprendi Gianni. Ma anche quelle che fa Luca sono leggere, non sono pesanti come antenne. Ehi, ma quella canna in resina, non lo so se regge il vento, dai. Non credo regga il vento. E vai su Facebook a vedere se lo regge. Io ho visto, Luca ha fatto un filmato con quel ventaccio che c'era, c'è la canna piegata, ma il vento la regge, si piega solo la canna e basta. No, la canna regge il peso del pesce, immaginati se lo regge quello. Aspetta che... Infatti gli ho scritto, vai e prendilo che ha boccato. di color, è a cazzo, allucinante. Perché stai invecchiando, lì, quello è il problema. Ma mi sa che mi sottavo se la piglia in culo. È già una settimana che sono così, mi. Quello per la panapera di cose, mal di collo, fronte. Per carità, mai non ho sofferto in vita mia, in moto, e ha detto meno di acqua, niente. Da quando abitato in quell'appartamento nel via San Donato, boom, mi ha massacrato, ma... Sì, è vero, mi sa che è vero. Ma lo sai cosa devi fare? Vai in farmacia, ti fai dare uno di quei cerotti antidolorifici. Te lo applichi dal collo, vedrai che ti passa. Se no ti metti un antidolorifico. Sempre la faccio invece. Prendo il 30-40 euro, mi faccio fare un massaggio da quelli cinesi. Prima sopra, poi nel collo di sopra, poi quello di sotto me lo faccio fare. Ma era passo dove ho sentito un break che usciva a tratti. Gianfranco, sei tu? Gianfranco? Break? Ah, va. Diciamo che un break è strozzato. Avanti, Gianfranco. Un controllo me lo date? Ma provo, avanti, con chi abbiamo l'onore di parlare? Da questa parte già gli do più rumo, avanti. Jessica, lui, c'è fondo scala qua, dove ci sono toccati? Ciao Jessica, ben sentita, tu qua arrivi 9.35, Gianni secondo me è a metà strada tra di noi, ben sentita in compagnia di Gianni, Antonello vai per Jessica. Ciao Jessica, questa è nuova, in casa degli altri naturalmente, ma comunque è nuova, ben sentita, controllo 9.20 qua, zona Carbonazzi. Jessica, il tuo vero nome è con la M inizia. Sono Jessica, sto provando un apparecchio nuovo, mi sentite bene? Perfettamente. È una bellissima voce, questo ci fa piacere, davvero una voce femminile in frequenza, va. Voi chi siete? Allora, io mi presento, sono Gianni, doppio room, poi c'è Alessio, c'è Marco e via dicendo. Vai Marco per Jessica e poi fai girare. Cappa Jessica, leggero, un pochino di scarica dal microfono, forse devi premere bene il tasto. Allora, io Marco, nominativo Condor, ma non lo uso più, zona Viale Trento, Gianni zona Via Valdenda, Antonello zona Carbonazzi, ecco, vieni avanti di nuovo. Buasio dice dove abito io, dove abito. No, per far capire le zone di modulazione, no? Marco! Adesso gli do la via. Pomponio, via guarda basso. Secondo luogo la destra, presa a testa. Guarda che se gira in casa, se è quella che dico io, sa anche dove abita. Può darsi, dai. Bene, bene. Dai, Gianni, riprendi tu. Che io sono sempre un po' depresso. Tira sul canale tu. Dalle con la Spagna. QSO local, QSO local. Nada di ex. E due. E parli tra. Jessica, sei in compagnia di qualcuno? Sì. Allora ho capito che sì. Sono nel camper e sto provando un apparecchio nuovo, chi sono, perché? Ah, in camper sì. No, pensavo che fossi una persona che conosco, dai. Kappa Kappa. E in che zona ti trovi? Monte Rosello Alto. Te l'ho detto che era a metà strada già. Bene, bene. Ma sei compagnia di Luca? No. No, forse no. Bene, comunque ben sentita, ben sentita, esci bene di radio. Ok. Riprendi Antonello, vai. Io sono in parlamobile. In motobicicletta sono. Mi sentite bene, sì? Sì, ma attaccato le sero. No, no. E se non lo staccato, come me, altra cosa, cioè, un giorno esce bene, un giorno esce male, a un certo punto mi pare che mi sono bisogno di fare un culo. Scusa, ho comprato un nuovo con l'apparecchio. Adesso tra l'altro va male. Sto usando il cono 4.000 adesso. Prova a attaccarlo, te lo diciamo noi come, c'è anche preoccupato. Di noi ti fidi. Tu attaccalo e vediamo, lo fai scaldare e vediamo come esce, così almeno sappiamo se è vero che esce male o no. A un certo punto non è forte nulla, sai, sventiare, cazzo, un giorno esce bene, un giorno esce male, me lo vendo, c'è un problema, va a fanculo e mi piglio un'altra cosa. Cioè, non mi piglio belle balie di cose, di birra, me lo bevo, me lo mangio, anzi, faccio una bella spesa dello spin, ora accetta il mercato, faccio una spesa per 200 euro di... per un mese, almeno me lo mangio, almeno sto tranquillo, nessuno mi dice che esce bene o che esce male, almeno se mangio esco bene io, e se non mangio, pazienza. Tu che ti mangi la birra, tutto mi poteva aspettare. Non c'è ora. Tutto mi mangio, non ti preoccupare. Ciao, che l'abbiamo sentito, bravati, già stavo ascoltando, non è che c'è una signorina, è entrata nuova. Sì, sì, nuova, la vado a parlare, signorina. Commissione di Luca, eh? Ah, Luca chi? Luca Flipper o Luca l'altro? Per cacciare i Flipper, i missioni, se no poi mi ci girano le balle del Flipper. Luca del Monte. Ah, ho capito, vabbè, non fa niente. D'accordo. Saluto anche a Luca del Monte, se c'è, e se la fidanzata sua non c'è problema. Saluto anche a lei. Non cambierebbe niente. Negativo, non conosco nessun Luca. Bene, ma noi sì però. Ciao. Salutatemelo quando lo vedete allora. Salutacelo tu. Allora Claudio, tu che hai le orecchie grandi, guarda, Magnum Omega Force MB più 5, tono a metà, dimmi se devo correggere il tono. Troppi bassi c'hai. Troppi bassi? Oh, non ci avrei mai... Guarda che sono, c'ho un po' di mal di gola, non sarà quello. Io sento la tonalità più bassa rispetto agli acuti. Gianni, come la senti? No, lo sai cos'è? Che l'Omega Force dà potenza, quindi è quello, Claudio, secondo me. Sta spingendo, è bella forte, ma prova a vedere, ma io direi di lasciarlo così, perché l'Omega Force dà compressione, quella più compressione che ha. Prova a mettergli un po' di acuti per essere scemito. Prego. Avanti. Gabba, buonasera. Massimiliano, vi saluto a tutti. Ciao Massimiliano, buonasera, dai, compagnia di Claudio, birrata Pignara, di cosa, di chi è l'altro? C'era anche Stefano, che fine ha fatto Stefano, ce lo siamo dimenticati. E poi qui c'era Alessio, Claudio, e una signorina, va. Positivo, saluto tutta la ruota, ma non è un controllo Gianni, sto usando 430. Prova bene, avanti che abbiamo messo gli occhiali. No, vabbè, mi interessa la radio più che altro, il segnale non è vario, là. Il segnale mi interessa la radio, com'è? Buona, 9.30, radio 5. Buona, la radio è cazzutta. Ma posso assomigliare alla modulazione di Claudio? Vediamo, forse Claudio è appena appena più di alti, forse, non saprei dire. Un orecchio allenato, Antonè, tu? No, tu sei troppo vicino. Boh, Gianni, tu devi valutare, perché qua è 9.35, quasi è troppo forte. Qua è 9.30 radio 5, e la radio è più, un po' più forte quella di Claudio, però è abbastanza forte, ma c'è quella lì, va bene, va benissimo. Ma è una bella radio. Positivo, là. Infatti questa qui è una delle sue, l'ho preso io questo 430. E va bene, va. E vabbè, dai, saluto anche a Claudio se c'è. E niente. Cosa ti volevo dire? Vabbè, adesso lo sto mettendo un po' sotto sforzo, vediamo un pochino cosa ne esce fuori. Vabbè, Claudio non capo di niente, è per quello che c'ha la voce grossa, capito? Saluta però che ce l'hai a fianco me. Ciao, Massimilia. Già lo credo. Cazzo di segnale, eh? Attenzione, vabbè, che io ci ho agganciato un linealetto qua, 200 watt sta andando, Passione Cal, nada di ex, comprende? Mi dico di girare la DAC alla banda, oh, se non basta la DAC non arrivai. No, ciao lì, no, niente, non sono da Claudio, l'ho salutato ma sicuramente si è allontanato. Capito. Ho agganciato un linealetto da 200 watt, ma lo stavo provando, visto che ce l'avevo a casa fermo. Avanti Daniele! Vediamo il 7, la 5 qui a Carbonazzi, da parte mia. Ma sì, 8, 8 e mezzo radio 5. Ciao Daniele, buonasera, ben ascoltato. Ale, ho sganciato il lineare, com'è adesso il segnale? Buono? Ascolta, se apri la finestra ci tiro la mano, mi. Ehi, ecco, è la multidiglia. Adesso ho sganciato, questo è solo radio. Gianni, da te com'è? Scusate, questa è prova, eh. Da me c'è sempre 9.30, non è sganciato proprio niente. No, no, già cambia il segnale qua. Adesso è 9.25 o giù di lì. Forse anche qualcosa di meno. Hai visto che già cambia il segnale. Va bene, magari, non lo so. Va bene, adesso mi vede la mia punta dell'antenna. E Alessio ne vede tante di punte. Ah, io ci ho problemi suoi, lo so, c'è tu di me. Va bene, dai, riprendi Daniele, tu che sei più lontano. E prendi il 2 per girare. Perché io sono piccolino, capito? Purtroppo. Passo, passo. Non ci posso fare niente. Ok, dai, vai Gianni. Aspetta. Ciao, tutto quanto la signorina, dai. Che l'abbiamo lasciata in parcheggio. Ciao Daniele, comunque mi hai sentito anche da parte mia. Non so come mi ascolti, li ha portato un se ti ascolta abbastanza bene. Avanti Daniele, poi fai girare di nuovo per Jessica. Bene, Daniele lo riprende. Massimilià, tendi l'orecchio. ZG MB più 5 su Magnum Omega Force, dimmi i toni come li senti, se è da fare più acuto o se è da fare più cupo. Va, si è incastrato. Dai, io faccio un attimino di pausa, che vedo un po' cosa tutto è andando sta cosa, va. Vediamo un attimino. Vediamo che hanno la Claudio, se ci si riprende tu e io mi stacco un secondo, eh. C'è gente, Massimilia, ci sentiamo dopo. Vabbè, dai, niente controllo. Gianni, valuta tu, dai, valuta tu. I toni vanno bene, sono cupo, sono acuto, come sono? Ma per me qua puoi lasciare così, Marco. Dico la verità, per me va bene così. No, non devi toccare proprio nulla, va benissimo. Capo, poi se vuoi provare a mettermi più acuti e vedere se va ancora meglio, fallo, però per me va bene così. Daniele, sono contento. Per esempio già, tono a 5, adesso il tono è a 5. Adesso il tono è a 6, tono 6. In questo momento il tono è a 7, tono 7. Adesso il tono è a 8, sicuramente diventa troppo fina. Dimmi tu. Ma no, non è che cambia eccessivamente, non cambia molto, Marco. C'è proprio un piccolo intento di cambiamento, c'è proprio appena appena. È quasi irrisoria la cosa. Ehi, adesso è 10, tono a 10, adesso te lo faccio cupo, guarda. Così tono acuto. Qua. Adesso il tono è tutto cupo, bene o male la differenza è sente, però io lo lascio sempre a 5, cioè la via di mezzo alla fine è sempre quella migliore. L'ultimo passaggio, questo qui non mi è piaciuto, però gli altri vanno benissimo, dai. Poi sempre dipende dall'orecchio, a chi piace più cupa, a chi piace più con più bassi, con più alti, sa. È come lo stereo, no? A me mi piace per dire sentire anche il sub. I bassi ci sono quelli che mettono tutto quanto acuti e io invece ce l'ho diviso il sub, l'ho messo a 15 per dire, e gli acuti li ho messi a 12, dipende sempre dall'orecchio. E alla fine è sempre una cosa soggettiva, dai, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, dai, a buon peso, dai, lasciamo a metà. Jessica, ci sei ancora? Oh. E vedi, è colpa di Pomponio, l'ha fatta scappare. Però non c'entro io, boh. Sempre lui è buon capo, sempre lui è. C'entri, c'entri, Antonella, sei sempre tu. Ah, sono io il cattivo, boh. Vabbè, non entro più la baracchina, parlo solo col muro, e poi e basta. Così parlate con tutti e tre col muro. Deia, parla col muro. Bene, comunque vedo che è anche il mic originale, va bene. Mi adesso passo al mic originale in un lampo, guarda. Questo è il mic, vabbè, l'MP5. Questo è il mic originale. Ecco qua, questo è da palmo, ovviamente l'altro è da tavola, andavo già. Ma non si è verificato quel rongio, io non so qual è la costante. Non so qual è la costante, mi provo a prendere la Cagnotti. Prendo la Colpi, muovo il microfono, lo Spinotto. Lo Spinotto balla un po', Balla un po' anche se serve la cosa. Vabbè, tutto nella norma, dai. Non spiego una cosa, Marco. Avete parlato in due, dimmi Antonè. Allora, quando attaccato il microfono va ricevuto più forte del microfono amplificato, quindi fai l'inverso un secondo. Mi ha tolto le parole dalla bocca, io ti ho detto, vuoi che te la ricadessi meglio col normale? Guardate che l'MB più 5 l'ho abbassato, l'ho abbassato a 5, perché se vi faccio, se lo amplifico vi faccio sordi, volete sentire? Io ve lo faccio sentire, anche toccare. No, fai l'inverso degli Spinotti invece, che è meglio. Fammi sentire l'inverso degli Spinotti. Ah, se mi stai facendo venire il dubbio anche a me, perché io con quello che ho io agganciato l'apparecchio, e ho staccato, mi sa che anch'io ho lo stesso problema. E vabbè, devo... allora, MB più 5, amplificazione 5. MB più 5, amplificazione 6. MB più 5, amplificazione 7. Comincia a salire. MB più 5, amplificazione 8. E adesso la metto a 10. Così a 10, vedi un po'. Cazzo un poco sale. Gianni, dimmi tutto. Da 8 a 10 non ha avuto nessuna differenza, però quando si è andata a 8 era fortissimo, era forte. Ma già va bene, ma hai dovuto abbassare tutto per attaccare l'amplificata, se no ti fischia. No, ma prima sai perché fischiava, perché mi stavo ascoltando col 3009, Tommy. Aspetta che trovo il canale. Già lo credo. Mi dovrei ascoltare in cuffie. Vabbè, lo lascio a sei, dai. Adesso lo collaudo ben bene e poi boh, lo metterò in vendita, non lo so. Perché non lo uso mai, non lo so, cioè è stata una spesa pazza. 329 euro. E ho detto tutto. Adesso me lo voglio, non ne voglio sapere più, c'ho troppe radio, no? Le sto mettendo una sopra l'altra, mi metto un giornale a metà tra la radio e l'altra per non graffiarle, no? Però troppe ne ho, e alla fine quella che uso sono sempre e solo i 3009. Poi i migliori, quelli che piacciono a me, sono il 5005, il 7009, 9009, quelli sono, mi piacciono di più, c'è poco da fare. Ah, io la regalo a casa. Tu dici sempre, oh, io se tu ti vuoi divertire a usarlo te lo porto. Il problema non ce n'è, lo tieni quanto vuoi tu, un giorno, una settimana, un mese, non mi interessa. Non ne uso mai. No, no, no. Dobbiamo fare l'affare. Oh, io, questi baracchini sono una dannazione. Aspetta, chiamo. Attenzione, Jessica, Jessica, sei ancora all'ascolto? Hai chiuso? Ma Stefano, che fine ha fatto? Boh, forse al telefono. Magari al telefono, dai. Oh, è scomparso, non l'abbiamo chiamato, siamo dimenticati. Claudio, ci sei? Sì, sono qua, ma c'è gente. E mandali al diavolo, chiudi la porta e vieni a parlare. Che problema c'è? Porta se vuoi in testa. Io ti ha sentito, mamma mia, ma sei proprio un pipistrello, un solo i nuvolatti, leggendo. Ehi, vabbè, dai. Oia, oia. Va bene. Oggi non sono uscito, sono rimasto col gatto sdraiato su di me tutto il giorno. Domani però ci rifacciamo, dai. Cappa, riprendi già. Sono stato rifacciato zoofilistico. Ehi, a zoofilia. È che il gatto è troppo piccolo, diciamo, capisci a me. Ah, io ci riusciamo, dai. Ehi, vabbè che col freddo, a me piaceva quando in primavera, quella volta eravamo andati al bar a Piazza Lissegni, quello era bello, ma c'era anche bel tempo già, belli al bar all'aperto, così è bello, solo che mamma mia, ogni volta sono tutti, ormai sono tutti anziani. Siete tutti anziani, non ce la fate più, dai, diciamolo, diciamolo. Sì, tu fidati. Boia, ce lo sai che scherzo già. Adesso io vorrei fare un'ultima prova, mentre parliamo, no? Perché il microfono da palmo dell'Omega Force e del Delta Force, o Ultra Force, non mi ricordo, sono uguali, stessi microfoni amplificati. Ho precompensi, però non mi ricordo dove l'ho messo. Forse ce l'ho in camera. Riprendi Antone che vado a prenderlo, dai. Ma piglia, piglia, non ti preoccupare. Oh, iaia. Perca, rica, perca. Quindi già mi senti bene in questo barattino, questo microfono, sì. Questo è il Corvus 4000 di Marco. Questo si sente bene, ma io volevo provare il 6-9 perché volevo vedere se stanno dicendo cazzate o se sono cose vere, capito quello che stanno dicendo. Aspetta, raga. Guarda, ieri davanti ieri, se non ricordo male, stavo uscendo benissimo, mi hanno detto, dice lascia tutto così, mi ha lasciato il microfono amplificato, ho tolto il Top Gun e ne sono sedimentato, stavo uscendo benissimo. Oggi sto uscendo male, a un certo punto guarda le misere di a un certo punto, quindi cioè non devo fare cazzo a sventiare cazzo con nessuno, un giorno sì, un giorno va bene, un giorno va male. A un certo punto l'ho staccato la fanculo, cioè scendo in garage, E c'è l'altro anche in culo, non stava a sventare con nessuno. Mamma mia. Per carità, guarda. A me i commenti così, cioè, soldi spesi per niente, a un certo punto scende da là, siamo fatto con l'altro, va a far culo, basta. Dimmi. Ma non è esattamente così, se ti riferisci ai controlli che abbiamo fatto l'altra volta. È che non si riusciva a regolare la modulazione, la radio è perfetta, chi ti ha detto che esce male la radio? Io parlo di aereo, se non mi ricordo male, ero ieri davanti ieri, che stavo uscendo benissimo, ho portato un buca e stavo uscendo con il microfono amplificato, con l'MP4, infatti tu mi hai chiesto, con il microfono sta uscendo, ho detto, con l'MP4, sta uscendo benissimo, oggi, non ho toccato niente, stavo uscendo un po' male, a un certo punto, piglio, stacco, va a far culo, non lo stare a casa sventiare, un giorno sì, va bene, l'altro va male a stare a sventiare, adesso sto usando il Comex 4000, uso quello e non sono in 3.000 per carità, non arriva in strada, sembra che il tabacchino vale per i fatti suoi in pratica, cioè se c'è freddo va male, se c'è caldo va bene. Tutto lì, là. Prende fastidio anche a te, se ti dice, vale, oggi esci bene, domani mattina esci male. Non ho toccato niente, ho usato la pare così com'era, senza eco, senza niente, perché era senza eco, la verità. Infatti Gianni ha detto di attaccarlo per vedere se c'è qualche problema. Io l'ultima volta hai parlato con me, ti ho detto sta andando benissimo, poi invece l'altra volta c'era Gianfranco, eccetera, non riuscivano a capirti, ma perché ci avevi l'eco, tutto qua. Comunque, con MV+4 ormai mi esce molto bene, perché io l'ho provato, perciò. Ma tutti i dì, lascialo così, va bene, riprendi Gianni, io sono qua comunque, vi ascolto perché sto parlando in verticale. Ehi, dai, abbiamo capito. Ma lei, magari qualche casa sarà regolare, tu quello da Parigi non lo conosci, io ne ho avuto 2, 3, 4 con questo che ho adesso, quindi qualche cosa di te magari lo conosco, se tu attacchi proviamo a regolarlo e vediamo un po' come va. Perché ci sono persone che magari non gli piace l'eco, dico che sta scendo male, anche se esci bene, non gli piace l'eco e basta, tutto lì. Antonetto. Non è quello il problema, l'altro giorno l'eco non ce l'avevo, è stato meno stasera, la vedeva si ricca. Eppure, l'altro giorno una volta di nuovo, non ho toccato niente. A un certo punto l'ho attaccato, ci ho scendendo l'ace, ci va a far culo, l'ho fatto con l'ignale, il che le cose del genere ci ho scendendo l'ace, per stare a sventiare. Non devo stare a pensare, domani, quello che è, me lo prendo, vado a far culo e non sono rimane in garage, già lo sai che è meglio, gli apparecchi non è che mi macchino. Io ho apparecchi, grazie a Dio. Vabbè, ma danno fastidio certe cose. Bisogna constatare se è vero che esci male, se è vero che esci male. Io ti dico la verità, se esci male dico che esci male, se esci bene dico che esci bene, sinceramente. Poi, non su tutti così, magari lo fanno apposta per farti incazzare, e allora bisogna vedere tutti incazzati troppo in fretta, muovi tutto, no? Non è così che funziona. Devi provare con le persone che ti puoi fidare. Antonello, rispondi. Pronto, rispondo, dimmi, sono qui, sono pronto. Antonello, anch'io però ho riscontrato che un giorno, qualche giorno fa, a parte l'eco, togliendo l'eco, la tua radio non era limpida, era sporca, era impastata, non te la so definire, non era limpida, in poche parole. Era come compressa, impastata, ma non è che tu ogni tanto ti distrai, anziché parlare a questa a distanza, magari parli così vicino, poi parli veloce, poi parli molto veloce, bla bla bla. Alla fine, parlando veloce come fai tu, non scandendo bene le parole e magari parlando attaccato al mic, magari distorce, è normale, anche qua distorce se io parlo così, a questa distanza, veloce. Adesso doveva nascere in Spagna, che parlano così. Adesso break, Gianni. Questo è il microfono dell'Albrecht Ultra Force, che sarebbe il Magnum Delta Force. I microfoni di serie dei due apparati sono uguali. Come va? Va bene, va bene. Ok, da. L'altro è più comodo perché ha l'attacco angolare, è fatto ad angolo, non lo spinotto. Questo invece ce l'ha normale, dritto come gli altri. Capito, Antonè? Io ho riscontrato anch'io che la radio non era limpida, era sporca, in poche parole. Però io non so se tu eri vicino, non so le tue condizioni di modulazione, capito? Dai, riprendi. Cazzo, non ho toccato niente, da ieri a oggi non ho toccato proprio niente, io sono entrato in quell'apparecchio là, la verità. Adesso mi hanno detto che stavo facendo benissimo, la verità, gli ho detto, fanno quello. Adesso, quando sono entrato a sera, sono entrato qua, stavo facendo un po' male. E a un certo punto, mi sono girato le palle, capito? L'ho attaccato con le 4.000, tanto, mi attaccare quello, e stare così, ti dico, no, sto facendo male, non ti capisco, quella, sei tutto buh, e là, a un certo punto, va a far culo, staccato e mi ci sono portato. Nella cameretta, già lo sai, già l'hai vista la cameretta, sopra da uno che c'è il miniparatino in bacchina, poi guarda. Ho capito, battala! Ah, passa la scopa! Magari! Va bene! Ehi, vabbè, sto scendendo bene con questa, aspetta che è accolato, va! 2 secondi, così vediamo di togliere il gusto. Fattacela, Marco, comunque ci dobbiamo sentire. Oh, sto valutando l'apparecchio perché, per esempio, il mal laterale ha un segnalino che sale, cioè non è a zero lì. È come l'altro, è come la stessa caratteristica dell'altro Albrecht. C'è un segnalino che sale, no? È come se l'oscillatore entrasse nelle bande laterali, non lo so. Questi apparecchi sono sempre stati così, sono fatti così. Fanno male da come li fanno, è vero. Sì. Cioè loro si vantano che loro mettono le piste del circuito di maggiore spessore, usano un rame tal dei tali, tutte menate, cioè gli americani fanno americanate, capito? Poi non metto in dubbio che in AM esca bene, ci mancherebbe. In FM non lo so perché credo che il trimmer dell'FM l'ho lasciato così com'era. 1, 2, 3, 4, 5. C'hanno ragione che non stai facendo bene. Allora, fa una cosa, sto dicendo quanto è. Ma come si fa a mettere un eco a quei livelli? Ma io non lo capisco. No, la ripetizione è veloce, cioè, perché sicuramente non l'ha regolato bene, ce la regalo più veloce. Ecco, regolalo bene, poi me lo fai sentire, già sono qua. Questo è un eco che non dà fastidio, vedi, leggero, leggero. Appena accennato. Oh, si sente Gianni? Ma quello di Gianni è il numero uno. No, il mio, l'ho appena accennato ed è veloce. In un pelino si sente, ma... Anche quello tuo pelino, quello già non mi dirò. Buone, uova. Uova, 5, 6. 456. Peggio che andare di notte. Sembra che non molti video. Antone, sembra un visitors. C'è un effetto riverbero. No, allucinante, no? Le lacrime me ne stanno scendendo. Antone, prenditi questo, cazzo, te lo regalo, guarda. Senti Gianni, perché gli dicono che esce male, perché lui queste prove le fa così, però non si comprende nulla. Io quando vado in un regolare, sai cosa faccio? Mi metto le cuffie, le attacco l'altro apparecchio e mi ascolto e piano piano lo regolo. E poi entro in frequenza e chiedo se va bene, perché a volte è anche falsa, quando tu ti regoli magari è un po' falsa la cosa che ti dà, però bene o male ti avvicini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Claudio, non ti pisciare da ridere, mi. Non ho mai sentito la voce così. No, aspetta, Antonè, a parte gli scherzi, tu hai messo l'eco, la velocità dell'eco brevissima, tu devi mettere a zero, spiega, cerca di capire. Il volume dell'eco lo devi mettere a zero, lo devi spegnere proprio. Cosa c'ha, uno scatto oppure lo un fondo fine corsa, fammi guarda, ti registro, ti faccio sentire Antonè. Tu non stavi uscendo così gli altri giorni, oggi è anormale. Guarda adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ottimo. Ecco, ok, vabbè, allora. Ottimo Antonè, non tocca se. Va bene, ora. Antonè, se tu stai sempre con questo eco, tocca, stocca, avanti, indietro, lo credo che poi esci male. Ecco, parla, dimmi la distanza dal mic, cos'è, 10 centimetri, 20, quant'è? 20 centimetri, so. Allora, così è una lettona. Allora. Non c'è da niente. Ok, vado a adesso. Adesso se ne puoi mettere un po' di eco con, dove c'è scritto volume del, la parte esterna, non quella interna, la metti a mezzogiorno e 5 e esci bene. No, non è fatto niente di quella, non volevo farlo fuori con questo apparecchio, quindi non è fatto proprio niente, lascio così com'è, si arrangiano gli altri. Ma se tu li metti appena appena di eco, non te la fa cuffa come ce l'ha la radio, perché la radio fa cuffa, secondo me, poi non sono gli altri. Se tu li metti un benino di eco, lo metti a mezzogiorno e 5, col dove c'è scritto volume dell'esterno, metti a mezzogiorno e 5 per cui mi dà la risposta. Non tocco niente, la lascio com'è, ma fa il culo, non sventiare per niente. Va bene così com'è. Non mi interessa niente, il culpa è perché c'ho le mute più 4, chi lo vuole se lo pigliano con questo microfono qui, poi si arrangiano gli altri. Sì, ma Antonè, stai andando bene, sì, a toni un po' bassi, leggermente bassi, ma stai andando bene adesso, Antonè. Ma prima, guarda, io ho sentito una voce da visitor, se mai sentite, Claudio si sarà pisciato dalle risate, Claudio. Non risponde, mi si è pisciato. Ma se è ridotto, se lo potevo far regolare a me, non è regola, cosa devi fare? Ui ui. Aio, vendo, venditi quello, ti do questo. Molto più chiaro. Lo stai vendendo, compro vendo, vai. Compro vendo. No, c'ho questo che non lo uso mai, perché secondo me fa TVI. Questo è un apparecchio che devi lasciare in macchina. perché in casa ci avrà un bel di armoniche e uno di quelli americani che sparano. Non è nemmeno messo a manetta, mi, col tappagran modulator. Questa è la modulazione normale, normale, col mic originale amplificato o precompresso, diciamo. La radio è Magnum Omega Force. Ah, e quanto? 150, bene fa. L'ho pagata 3,29. Minchia, è buono il prezzo, buono, buono. Mi dice Gianni, dice, io facciamo l'affare. Però non ho capito, in banda laterale c'è come un oscillatore che fa salire la lancetta dello smitter, come se ricevesse un segnalino dall'interno, no, una cosa del genere. E lo facevo uguale l'Albrecht Ultra Force, che sarebbe il Magnum Delta Force, uguale, sono fatti uguali, solo che questo c'ha, te lo faccio sentire. E il connettore com'è? A quante punte è? Allora, questo è il Top Gun Modulator, spinge più come va radio, come watt, perché questo ha picchi di modulazione, mi guarda. Ola, ola. Però è leggermente meno chiara, spinge di più, ma in città è eccessiva, capito? Allora, ha due ingressi microfono, c'ha l'ingresso a 6 pin del mic originale e poi a destra c'ha un altro ingresso microfono, 4 pin, capito? Li puoi mettere l'MB più 5, quello che vuoi tu li puoi mettere. Abbassa, infatti voglio vedere i picchi di modulazione. Guarda, circa un watt, aspetta, attenua se puoi, metti a 9. Importante nota. Guarda, aspetta, faccio un'ola. Ola, ola. 1, 2, 3, prova, vedi un po' se sale. 1, 2, 3. Sciuga, da 20 a 40 vai. Sì, perché questo praticamente sfrutta tutta la modulazione in picchi positivi, capito? Solo che te l'ho detto, a casa è un casino, Claudio, a casa secondo me questo entra nelle casse di stereo, roba del genere. Andrebbe più in macchina, messo in macchina, capito? Infatti in macchina questa è una bomba, in macchina va benissimo, perché arriva la portante a... Con un watt di portante notte arriva a 40 modulati, forse qualcosa in più. Ci vorrebbe un wattmetro che lega la potenza P e P, capito? La potenza P e P, perché il mio non la legge. Rimettilo come la rimetti, sono strappo, E il Mickey come ce l'hai? A manetta. Ecco, adesso ho tolto il Top Gun Modulator, distanza 10 cm, ma che è una manetta. Se vuoi ti faccio sentire l'MB più 5, attaccato alla presa da 4 poli. Guarda, non stacco nemmeno la portante. Ecco qua. Questo è l'MB più 5. Aspetta, adesso è a 7. A 7. MB più 5 con... volume a 7 senza Top Gun Modulator, capito? Adesso lo metto a 10, guarda. MB più 5 a 10, torna a metà, il volume adesso a 10, però se ricordo, senza Top Gun Modulator, compri? È bella, già va bene, e prendi già. Sì, io un attimo, sto leggendo una cosa, scusi. Poi se mettiamo, aspetta, ora Top Gun Modulator con MB più 5 o 10 sicuramente si sente anche respiro. 1, 2, 3, è troppo, così è troppo alto però. Ma mi piace così, la puoi abbassare appena. No dai, non voglio esagerare. Guarda, lo metto a 7, 7, la MB più 5 a 7, senza turbomodulatore, dai, perché sennò è eccessivo. Aspetta che li metto 4 watt. Ecco. Circa 4 watt, dai, se no lo possiamo mettere a 40 direttamente, guarda, e guarda il segnale. Ecco, così è piena potenza, però ovviamente non hai picchi perché la potenza è già sfruttata tutta. Compri, Claudio? Allucinante, 9,40 sì. Eia. Eia, eia. Però questa della banda laterale forse è uscito così di fabbrica, eh. Secondo me bisogna ritoccare leggermente qualcosina in USB. O la sensibilità che è eccessiva, forse l'hanno messa a manetta, mi. Così chi lo porta in macchina c'ha più sensibilità in banda laterale. Lo vuoi sentire in banda laterale? Io l'ho già sentito, non ti preoccupare, mi ho già fatto il provoletto, ma c'è scatola, tutto in originale. Tutto? Claudio, io c'ho tutto, io l'ho comprato originale. Questo è della Proxel, ha la garanzia della Proxel. Si diceva, aspetta, basso, cazzo, troppo, che si riscalda troppo. 4 watt. Allora, si diceva che il Magnum originale americano, no? Magnum originale americano spingesse più in banda laterale, avesse più watt a banda laterale, tipo 80, 60, no? E si diceva che quello della Proxel spingesse leggermente meno. Cioè, quello americano era esasperato, in poche parole, mi Claudio. Invece quello dato dalla Proxel, che c'ha, cioè la garanzia la fa la Proxel, no? Anche se credo che ormai sia scaduta. È un po' più contenuto, capito? Non è eccessivamente tirato. Compri? Sì, c'ho scatola, tutto, ogni minima vite, tutto ciò. Io tengo tutto, non butto scatola, non butto niente. Ce ne parliamo, ok. Dai, io vi saluto, vado a portare il cane, che sono già alle 8, e sulle 8 sono già 8 meno 5. Dai, ci sentiamo, se ci siete dopo, se no a domani. E io Claudio, dai, buona passeggiata con tutto. Ci sentiamo, dai. E fra poco, non so che ora sia, ma fra poco mi guardo il telegiornale, dai. Ok, Gianni, riprendi? Ci sei, Gianni? L'altro, scusa già, l'altro che cos'è? 857? Forse siamo sovrappopulati. No, sto scendendo già a portare il cane e poi non rientro, dai. Mi guardo il televisore. Ci sentiamo, magari domani, dai, non c'è problema. Ciao. E io c'ho già. Come mi ha detto Claudio, l'857, ma l'altro è una cosa a sé, quello è un amatoriale, no? Sì, ma c'è ancora quello. Ciao già, anch'io sto andando. Quello ce l'hai ancora? Sì, sì, sempre, sempre. Non lo sto nemmeno più usando, ogni tanto l'attacco per il PMR, no? Per modulare FM, per il resto non sto nemmeno più ascoltando. E che ci vuoi fare, Claudio? Quando uno fa il passo più grande della gamba, poi rimane con un... con una cosa infilata dietro, mi hai capito? Ascolta, quanto costava quella radio? L'857, quasi 800, compresa espansione di bande e la spedizione, diciamo, dai, quasi 800, tipo 798, qualcosa del genere. Ma una bella radio, una bella radio per la macchina micidiale, quella, c'è la vittoria uguale, molto bello. Va bene, dai, ci aggiorniamo telefonicamente o di persona. Per il momento chiudo, che è tardi, dai, ciao a tutti, un abbraccio circolare anche a chi sta ascoltando, ci sentiamo, a domani, ciao ragazzi. Ciao Vale! Ciao, non tocca se! Ciao Vale, un abbraccio. Già ti chiamo al telefono, dai, che vado a portare a Pippo, se no mi piscia i piedi, ciao. E io ciao Claudio, ciao Valerio, Non sapevo che eri all'ascolto, dai. Bella, ben entrato, dai. Buona serata. Pomponio, ci sei ancora? Antonello? Ia, sono qua, dimmi. Ehi, ho capito l'antifono, Antonè. Avevi messo l'eco... Guarda, non ti so fare il paragone, ma penso di poterci arrivare. Aspetta. Prova, autoascolto, aspetta. No, troppo. Prova. Ora. No, era più corto ancora. Cioè, Antonera, aspetta che lo spengo. Ecco, quello posso spegnere proprio dalla... È una cosa incredibile, mi... Quell'effetto Visitors, tu te lo ricordi, Visitors degli anni Ottanta, quei telefilm, uguale uscivi. Infatti c'era Claudio, si stava pisciando dalle risate. E c'è adesso, va bene, sì, c'è i toni un po' bassi, ma... Per esempio, Antonio, se tu, anziché l'MB+4 fisso, avessi avuto l'MB+5, potevi correggere un po' i toni. Potevi metterlo un po' più acuto in modo da essere perfetto, capito? Marco, c'è qua 100 euro, se vengo a prendermelo. E cosa? L'857? Ma quello mi dispiacerebbe darlo quasi, non lo so. Perché poi tanto me ne pento. Poi avevo fatto una modifica per uscire bene in AM, per uscire un tantino meglio in AM, no? Il microfono originale, gli ho tolto una resistenza, gli ho cambiato un valore del, come cacchio si chiama, un condensatore, valore diverso, no? Quindi in AM, se lo tieni a 10 cm, esce come una radio normale, ma ancora bene, no? Prima era terrificante, era terribile, adesso va bene. Però in questa modifica in banda laterale fa un leggero soffietto, cioè l'impedenza del microfono è stata, diciamo, alterata e fa un leggero soffietto, capito Massimiliano? Però se tu metti l'MD100 oppure li compri il microfono originale sparisce quello, capito? Ma perché ti serve un quadribanda? No, io ce l'avevo quello da base, capito? Io c'avevo il 767 della Yaesu, quadribanda, e mi è arrivato il microfono, l'MD1, capito? E io metti, me lo metto la scatola, però la macchina vado a prendere. Sul serio? So che io, te l'ho detto, in teoria non preventivavo di prenderlo, lo volevo vendere... Tempo di Busillis lo volevo vendere, un mese dopo che l'avevo comprato mi ero accorto della cazzata che avevo fatto, capito? Poi vabbè, lo usavo un po' per ricevere, lo usavo in FM, in PMR, ecco, quello sì, però per il resto zero totale. Fammici pensare, Massimiliano, fammici pensare un attimino. No, dai, che sto scherzando, Marco. È il mio sogno avere quella radio, capito? Bella. Adesso non ce la faccio, però può darsi a luglio, quando ritiro la cassa e dire ci posso fare un pensierino. Ehi, il sogno, guarda, io l'ho avuta e... va. Cioè sì, ti permette di fare tutto, HF, 50, VEU, in tutti i modi di emissione, cioè... VEU li fa anche in banda laterale, tutto fa. E per la macchina è un bijou, io l'ho usata un po' abusivamente. Avevo tarato l'antenna per i 45 metri, no? Ho sentito gente parlando, ho provato a fare una chiamata isolata, ero a Porto Torres, una singola chiamata. Attenzione sulla frequenza, che mi hanno risposto subito. Quindi funge, però poi, siccome non si può parlare lì, non ho parlato, però con l'antenna veicolare ben tarata mi hanno risposto subito. Vabbè, l'apparecchio è sempre qua, mi è sempre nella scatola, lo sto tenendo in una valigetta, poi c'ho tutto, scatole, garanzie che non so se siano ancora valide, riti, tutto ciò, capito? Valuterò anch'io, perché poi rimarrei senza cuffia, ma visto che non la sto più usando, vedi tu, dai, certo che il microfono va cambiato perché quello l'ho modificato, si può pigliare anche il microfono con i tasti, mi lo sai, che ha una capsula condensatore, cioè i tasti per fare quasi tutte le funzioni da affrontare, quello è molto bello, si chiama MH59H mi pare, una cosa del genere. Vabbè, dai, già le riparliamo in futuro. Ciao Massimiliano, ciao. Ciao, va. Ah, io sono solito a vedere, non vedo niente qua perché è un maledetto, che sono solito a vedere la nuova radio di Claudio, che è per la diarita, va. Eia. Sempre comprando Claudio, sempre comprando radio, sa, le vende e poi li ricopra da una parte. Quella stazione sta sempre cambiando, lei non è mai definitiva, ma forse è giusto che sia così, anch'io sto sempre comprando, poi magari me ne pento. Ehi, ci ha fatto fuori un po' di radio vecchie, e a 329.000 ha preso, minchia, la diarita. L'FT 9000? Esiste pure il 9000, così è? Certo esiste, a voglia, ma bello, cazzo di mica, bello manco di qua, ma sto ancora piangendo, cazzo. Forse non mi esce l'intonaco la casa nuova. Ah, così è, quante sacche di sangue hai dovuto dare per pigliare quell'apparato? Guarda, io gliel'ho prestato uno e lui ne ha messo quattro. Ui. Mica non finisci la casa nuova, mi se continui a comprare radio. Meglio la casa delle radio. Vabbè, uno sfizio si può anche fare. Servile tu. Con una macchina già venduto, va. Cazzo, sono rimasto a piedi. Io vago. Non c'ho più la cesina, cazzo, diretto la macchina, ma tu non lo servivano per la casa. Vabbè, questo è un accordo che volevo i muratori. Ti saluto, va, così me ne vado. Sono giusto salito a bere il radio, che mi metto un po' rato per vederla. Bella, veramente. Vabbè, però comunque mi ha fatto lasciare il tuo numero e ne riparliamo di quella cosa lì. Ehi, Adal, tanto patente non me ne prendo, non ho voglia, poi lì tutto cicci, bisogna stare sempre posati, sì, più controllato, quando sei radioattore non puoi fare certe cose, preferisco rimanere 27, capito? Tanto non ho soldi da spendere in antenne, in dipoli, poi mi devo azzuffare per mettermi in antenne decametriche, no, non esiste, dai. Marco. Guarda, preferisco fare il pirata in 45 metri con quella radio piuttosto di diventare radio amatore. Ti regalo io direttiva Marco, non ti preoccupare. Natalie, sei basso e stai fischiando. Va, non mi sente lui. Natalie, stai fischiando. E per gli altri. Pomponio, fai un modulo, dai, fammi sentire la voce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimmi se hai alzato i watt, perché se hai alzato i watt è quello. La radio è meno chiara. Adesso è sporca, cosa hai fatto? Hai alzato i watt, cosa hai toccato? Non ho toccato niente. I watt sono a zero. Questo è il volume. Vado un po', adesso non impatto, va bene. 1, 3, 4, 5, 6. Io la sento leggermente più sporca, come fosse leggermente saturo, comunque non limpida. Hanno ragione Antonè. Tu quando sei entrato, che Claudio ha detto non tocchese, quando ha detto non tocchese, stavi andando bene. Adesso ho peggiorato di nuovo. Cosa vuoi ti dica? Ho tolto tutto, ho tolto anche la NLNBMI per darti controllo, perché quello può falsare la ricezione. Non è limpida. In poche parole, mi Claudio, se c'è ancora te lo può dire, basta attenuarti un po', adesso ti attenuo anch'io, mi ti attenuo, voglio vedere, ti porto a nome e voglio vedere come, come esci. Parla un po'. Guarda, ah no, aspetta, aspetta, adesso sono staccato, c'era lì attaccato, c'era. Guarda adesso, va bene, ti piace? E infatti è risalito di segnale, Antonè. È risalito di segnale, adesso sei 9.15 ma è pulita. Ok, vabbè, allora, adesso questo è il... Direi... Ora. Allora, 1, 2, 3. Guarda un po', guarda un po'. Va bene, Antonè, va bene. Va bene. Prova, prova. Vediamo, stai uscendo... Oh. Oh. Oh. Oh. Guarda un po'. Così stai uscendomi. Con l'eco tipo così, forse un po' più lento. Più lento. Già va bene, dai. Ok, adesso ho capito, va bene. Siccome poco fa l'ho attaccato. E anche adesso. 120 watt, quello che io sto usando per lineare. Buon volare. Eia, praticamente ti dirò che non sale molto di segnale, sale a 9.20, da 1.15 a 9.20, però ti peggiora molto la radio, Antonè. Secondo me non li sta per niente dando i 120 watt, per niente. E ripeto, tu sei bello limpido da liscio. Se metti lineare aumenta di poco, 5 dB, 6 dB, un Santiago, però peggiora la radio molto. Quindi decidi tu. E poi in città, Antonè, in città stiamo bene così come stiamo, dai, con pochi watt. Io ne ho 4 di portante mutta, modulati... Ola! Boh, forse 10, 20, non lo so, non lo so. Che già va bene, non è un problema per quello. Allora, più da più, dovrebbe essere così. Ora, metto... Questa cosa, quindi così la manetta. E quindi a zero. Mi batte sulla manetta. Ehi, caro. Caro, caro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso ho il microfono tavolo. E così sono a mani libere, no? Posso farmi anche le pippe. Chi c'è rimasto qua, dai? Chi c'è rimasto? Ma per io ciò dovrebbe essere, se c'è. Natalino, sei Santiago 1. 1, 2, non ti sento proprio. A malapena ti sento. Cerca di mettere l'antenna nella posizione come era prima. E poi questa bazooka, metti questa bazooka, digli alla Luca di venire. Se vuoi vengo anch'io, vi do una mano. Ma sei troppo basso. Chi te l'ho mandata alla radio, Marco? Resta una potenza. E io, ciao Claudio, buona passeggiata, dai. No, non assai, non assai, non molto, c'era un periodo che eri molto più alto di segnale, me lo ricordo bene. Caro motopompa, Arconzi Semmo, ah, bello però l'MB più 5 su questo apparato, rende bene, dai, rende bene, e comunque tutti i soldi buttati sono. Sono soldi buttati in baracchini. Il 3009 è il baracchino per eccellenza. Non c'è altro baracchino all'infuori del 3009. Quello è il baracchino. Il baracchino. Non un baracchino. È semplice, non ha menù, non ha menate, non ha portantine mal laterale, no, auto-oscillazioni, cos'è? No, non sono auto-oscillazioni. Però questo è il punto. Lo so, adesso martedì incasso, sono apposta, era male, era ora. Ehi Natalì, c'è Pompuglio che non ti sente, ti sola modula. No, pochissimo, sei passato, che ne so, da Santiago 2 a Santiago 3, ma non cambia nulla, sei bassino. Vabbè, ma parla di frusci. Luca del Monte. Io quella Greco L era a casa tua, di la verità. Abbassa le voci, Luca del Monte, abbassa le voci, che qua al monte c'è sempre gente più in alto. Comunque ciao a tutti, cosa ho capito Marco, là? Tu stavi facendo parlare la tua ragazza al baracchino, perché c'era una Greco L stasera. No, io sono a casa che sto curando mia madre. L'ho acceso adesso il baracchino. Assolutamente. Non ho che c'è la mia nipote, ma no, non è andata via alle 5 e mezza. No, nessuno che corre da questa parte. Ehi, allora ti spiego. Stasera è entrata una ragazza, no? Che era, diceva di essere dal Monte Alto, arrivava a 9.35, infatti ero convinto che fosse da casa tua, invece no, dice che era con un camper, Monte Alto, aspetta, arrivava come te, mi risegnale. Boh, non lo so, io sono qua a casa, tra un po' adesso ho fatto l'insulina a mia madre, l'ho fatta mangiare, poi alle 9, alle 21 gli do altre medicine e poi alle 22 gli faccio l'insulina che ricopre tutta la notte e domani vado a dormire a casa della mia ragazza, tanto già c'è mio fratello qua e domani mattina alle 7 sono qua per fare l'insulina, per fare, cioè, una nel mattino, dai. Purtroppo mi aspetta, ho imparato, ho paura, adesso non ho più paura di farla perché io con gli aghi non vado d'accordo, comunque. Ehi, dillo a me, Lu, io non li posso vedere gli aghi, Teia, è situazione un po' delicata lì, e vabbè, anzi ti dirò, Lu, tu arrivi 9.30, a questo apparecchio arrivi 9.30 spaccato, quella era 9 più 35, è ancora più forte di te, caspita, non mi ricordo nemmeno il nome. Antonio, come si chiamava quella Greco L? Come arrivo io? Permesso, buonasera, Marco Scorpion. Ah, Marco Scorpion, fammi vedere il segnale, la radio è un po'... un po' così, non proprio chiaro. Sì, ciao, buonasera, ciao a tutti, ciao Marco, ciao Antonello, ciao Luca e chiunque fosse in ascolto. Ciao Marco, no, qua c'è 9.3, è un po' la scala. Sì, c'ho l'antenna un po' andata. Deve essere entrata acqua e specchio stazionare, ma stazionare alta, devo mettere la correttore, altrimenti non funziona. Sarà bollendo, ci sarà qualche litro d'acqua dentro con i pesci. E la correttore ha fatto anche fatica, ho dovuto usare la correttore radiomatoriale esterno per accordarlo, sto usando un Comstat, un vecchio valvolare con microfono adattato. Segnalone, sento anche Natalino, il mio ex vicino, dove sei Natalino? Ehi, qua arriva veramente basso. Allora Marco, tu sai a chi somiglia modulando, non so se ce l'hai presente, sembravi Gianni Capri 2, identico a Capri 2, e siccome l'apparecchio è dopo, che adesso capisco il perché, tuoni vabbè un po' bassi, però bene o male, più 15, zona Viale Trento. Sì, già lo so dove abiti Marco, forse è troppo alto, aspetta che provo a passare qua, a toccare questi potenziometri, è tutta roba vecchia e fanno più che altro. Aspetta, ha abbassato un pochino, non so se succede qualcosa, se sta... Sì, può uscire perché la lucettina per la radio è vecchia, non c'ha niente, ma c'ha la lucettina che ti indica quando la modulazione sta crescendo, se è crescente oppure no. Molto bene, vediamo un po' se così è diminuita come... Capri è esagerato, mi ricordo c'ha delle modulazioni veramente esagerate. Eia, solo che il segnale era troppo forte per essere lui, non è più rientrato. Boh, ha detto che rientrava, non, ogni tanto cambia. Ha venduto tutto, aveva rotto anche l'antenna in mille pezzi, poi si è pettito, dice rientrava, non è rientrato ancora. Marco, dammi un segnale tu. Cioè, non segnale, la radio, non mi interessa il segnale, solo la radio. Sto usando un Magnum Omega Force con microfono MB più 5. Bella, bella, amplificata, bella, chiara, squillante, bella. Va molto bene. Segnale che ti dica qua gli strumenti della Nubre, arrivi intorno al fondo scala, zona rossa intorno al fondo scala, come Luca qua arriva al fondo scala, su questa radio, cosa vuoi ti dica? Segnale fa fatica a dare un'indicazione insomma corretta, oltre 9 più 20 sicuramente. Con la Bimbo sì. Comunque confermo, Marco ascolta una bella radio, una radio bella squillante, può essere un apparecchio vecchio, come stavi dicendo, è una bella radio, bella squillante, come abbassato ancora meglio, perché prima era molto più alta, ma comunque già andava bene lo stesso, avanti, Antonè. Ciao Marco. Ma se vi ho visto l'unità proentrica, è il volta che prima ha fatto, musue. Sì, è già un giorno che è morto, ha fatto funerale e tutto. Le radio le ha portate via a Tavone, è andato con una specie di calamita gigantesca, le ha agganciate tutte, le ha tutte schiacciate. E beato, ma come mai non c'hai neanche 15 o 16 bippi? Io ti cancello, mi t'avevo qua nell'elenco dei piparoni, non c'è più piparolo. Che cosa ti ho appena detto? Con lineare aumenti pochissimo, ma sei brutto. Esci liscio, porca miseria, siamo in città, mi. Sì, ha ragione Marco, Antonè, fa schifo questa rotolazione. Sì, saturo, tutto distorto, non va bene, Antonè. No, anche perché sei brutto, così a guardarti, invece generalmente sei proprio un bel ragazzo con gli occhi azzurri, per carità. Adesso meglio fatti il piaccio a calo, così facciamo l'amore stanotte. Mi sto già prendendo la cassa, me la sto togliendo, te lo sto dicendo. Ho staccato adesso, sono liscio, non ti preoccupare. Dai, lascia così che va bene, così va bene, così hai la voce tua. Poco fa eri sato. A parte che è vero, io non ho visto crescita particolarmente interessante. Sei quasi in fondo scala, sei intorno a 9 più 30, ma non è che forse abbia aumentato chissà cosa, amico. No. Che cos'è questo amplificatore? Fondo i miei, che sono provando io. Ce l'ho qua a casa, è mica mio, la verità. Ma sono stato, vabbè, la cappa del tutto, va bene? Questo è il Magnum S9. Lascia così che va bene. Ma boh, dai, ti saluto e vado a cenare. La signora mi ha già chiamato da un po' prima che la cena arrivi qua. Vado io giù. Ciao a tutti, dai, buon divertimento. E intanto vai, passate su Frequenza Vintage, se avete vecchie radio, Ratatuglia, roba degli anni passati. Questa qua sia o del 71 o del 1982. Una cosa del genere. Vecchia come me, Marcucca, che non è altra. Ciao Marco, ciao Luca, ciao Antonello, ciao a chiunque in ascolto. Marco Scorpiano, QRT, ciao, buona cena a tutti. Marco, basta passare il mini PML, ci trovi tutti lì, ci trovi, ma centrale, lo sai, canale 7. Canale 7 PML, ok. Ciao Marco, riprendi e fai girare, ciao. Gappa, ciao Marco. Ben sentito. E fra un po' chiudo anch'io, ragazzi, che mi guardo un po' di telegiornale se già non è iniziato. Così, Antonè, ricordati, liscio vai benissimo, perché quando attacchi non si può sentire quella radio, c'è poco da fare, dai. Ok, chiudo anch'io e ci sentiamo domani, Antonè, dai. Solita ora, tanto domani è domenica, dovrei lasciare lo stesso apparato. Ciao a tutti gli ascoltoni, non so più chi ci sia, Natalino, che purtroppo sento a malapena. E Luca, anche Luca Del Monte, che non sento da parecchio, ogni tanto entra per questioni famiglia, dai. Ci sentiamo alla prossima. Riprendi Luca, querti per me effettivo, dai. Via, ciao Marco, Scorpio, alla prossima, ciao Marco, anche a te. Alla prossima, ciao a tutti, chiudo pure io, vado a mangiare. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ci sentiamo, buonanotte, buon tutto, buona querti. Buonasera a te. Cazzo, mi la parola di io. Per carità. Allora, la buon'anima, come ci metti sempre? Perché fa con la tappa e ho comprato la tappa e che c'entra, perché paghi la tassa? Anch'io, guarda, io tasso non mi pago eppure entro lo stesso, anche in frequenza dermatoriale, per dire che così sono. E tu perché sei un pirata? Già lo sappiamo che c'è la pelle. Io sono pirata, non sono un signore, diceva quello. Assimilare qualcosa. Infatti se tu stai sbucciando qualcosa, però sta mangiando questo. Lui si deve mangiare, no? Ma lui è a dieta. Infatti, ma se due o tre decine adesso sto scendo, non sta facendo. E tacchivi, tu vai un sinno da tacchivi. Ma sono per me sia a tua vita. Vabbè, dai, vai, vai a chiamare, non ti sentiamo, vai. Vabbè, non è con la porta la cena, lo sto facendo io. Non picchia nessuno a me, non ti preoccupare. Ma se... Che dici, fa di più, non mi sembra di no. Gianni, non so se c'è ancora. Gianni, ci sei? Non c'è più nessuno. C'era anche Stefano stasera, poi è sparito. Principe Azzurro. Principe duro. Principe duro. No, Principe Azzurro. E vabbè, devo salutare qualche questo va a ballare. Anche a ballare vai. E dove? E dove? No, adesso vanno tutti a ballare, non c'è nessuno. Non si è andato a cenare e qui vanno tutti a ballare. Ah, no, perché a ballare la guida non c'è la discoteca. Magari una volta c'era, tanti anni fa, parlo di forse 20 anni fa, e andavamo tutti cibiti a ballare. Mi sembra che era Usi, se non mi ricordo male, la verità. O su Usi, una cosa del genere. Hai porta, hai porte. Ah, te lo dico che anche tu, Giacla. C'era una ragione. Ah, il porto 77, che non se lo ricorda. Il topo di noi ragazzi era che da produttore ci andavamo noi. E figurati che me lo ricordo ancora. Nel porto era di... Sì, era del padre di Giuseppe, se non mi ricordo male, perché c'era tre discoteche di Aussi. Sì, del padre di Giuseppe Aucino, sì. Esatto, sì, infatti. Era una gran bella discoteca. Io penso che ci sia ancora, ma Marco ancora c'è. Ma Marco ha chiuso, c'è Elio. Entrato, dietro, anche Marco, perfetto, Marco, scusa anche lui. Oh, qua mi dici? E io, aspetta che mi ha chiamato Simona a controllare, a cucinare, io si può aspettare lui, e entro subito, io mi ammazza qua. Scappa, scappa, va bene. E beh, Elio. Sì, Claudio. Buonasera, tu vuoi che sto mangiando un po' di riso? Ma che sto mangiando un po' di riso? la voglio mangiare. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Tutto ok. C'erano Massimiliano per la sera. Adesso ho portato il cane, sono risalito. E buh. E basta. Tutto gappa. Ovviamente mi sono fatto un po' di polizia. Sì, sono un po' ovvia. Devo fare le commissioni. Mi ha visto che stava andando a Stefano, sono andato con lui, poi siamo passati a trovare a Paolo. Siamo rientrati, sono solo 8:30, erano là. Ok. Guarda, c'è tutto qualcuno che pensa che ti fa. Mettiti in prezzo, io posso sempre chiedere, quello che avevo io le ho vendute tutte praticamente. Tutti, ho tenuto un 440 e il 430 di scorta, ma non lo sto quasi usando, diciamo, ogni tanto lo accendo, però ho sempre il 440. Tutti gli altri li ho fatti fuori, anche gli HF che avevo in più. Tanto ne ho preso uno e boh, e basta. Va bene, fammi sapere, io chiedo, non sai che ti messi fidano, io la vendo sempre a radio, ho venduto anche quello che mi ha dato Gianni, ho venduto quello che mi ha dato Massimiliano, capito, tutto qua, bene Meda. 3 piotte, non fanno bene. Quanto è? 3 piotte. Ma è grande. Cosa stai vendendo io? Cosa stai vendendo? No, io ti sto. Non ho detto che... Ovviamente non ho detto che... Non ho detto che io sto fatto. Ma posso fare? Sì. Io sto lì, io sto lì. Mi ha malattinato il domani quello, ma ho detto che... Quanto è il pezzo? 3 piotte. Vedi che piotte? Non lo comprendi? 3 piotte, il romanesco te l'ha letto. 300 euro, è un affare. C'hai tutto, tutto. Nel 450 la bella macchinetta, che per fare 27 va bene. Accordatore. Una bella macchinetta, un semidigitale, va bene. Ah sì, così lo prendo martedì, subito, immediatamente, in contanti. Ancora una bella macchina, vuol dire che c'hai una macchina eccezionale sia per fare HF, lo vendo, sia per ascoltare e sia anche per parlare 27 perché esce bene, 450 e 27, capito? Però c'è il raccordatore incorporato, semi digitale, c'hai tutti i filtri, l'amplificatore d'antenna, c'hai tutto, tutto quello che serve. E io ho iniziato con quella, ho distrutto il mondo, aveva con 450, in HF, bella macchina. Non ti vado a punto che ti sento qua. Poi ho finito questo, ho comprato, ho finito questo. E con questo ho fatto $4.50. Poi ho preso solo il 19.50, ma il 19.50 si lo usa. Però l'ho fatto fatto il fatto votato in 50. E vabbè, quello ha fatto un giro un po' particolare quella radio, perché l'ha comprata nuova a Sandro, dopo un paio di mesi l'ha lavorata a me, io l'ho tenuta lo stesso poco, l'ho lavorata a Fabri e Fabri è andata a te. Però sempre in mano, ottima, tenuta bene, perché è nuovissima quella radio, funziona molto molto bene, anche quella, vabbè, quella è un'altra cosa. Però Antonè, tieni conto che lo stai pagando a livello di un 140. Faccio un bel pensierino perché un 4,50 non lo paghi meno di 500 euro. Soprattutto con Gino mi viene già da pensare, la verità si dica. Comunque sia, non lo so. C'è anche la Stefano al limite, no? Sarà così possibile, mercoledì me lo metterò io, se no rimanevo per dirlo bene. Grazie con come al solito tu le orecchie ce le hai tappate. Non è il 4,50 che ha fatto tutto quel giro, è il 9,50, l'FT 9,50 che c'ha Elio, che l'ha comprato nuovo Sandro. Sandro l'ha passato a me, io l'ho dato a Fabrizio, Fabrizio l'ha dato a Elio, ma sempre in mani buone, buone, veramente buone, perché ha lavorato sempre poco quella radio, ed è nuova, ok? Mentre questo 450 è nuovo, unico proprietario, e lo stai pagando al prezzo di un 140, capito? Quindi faccio un pensierino. Sì, così non c'è problema, se no lo faccio lì, lo sai di dove. Per quello, vabbè, martedì, metti i soldi, mercoledì, al limite, si farà fare. Se è così come dici tu, ma se non ti diamo qua. Io l'ho avuta e quindi ti posso dire che il 27 l'ho usata ed è una bella macchinetta, funziona bene ed è un semidigitale, quindi però c'ha tutto quello che serve, capito? A differenza del 440 che Fitri lo usa, c'ha solo quello in SSB, quella è più completa e poi è molto bella come radio, non è male, il prezzo è molto molto interessante, molto interessante. Capite? Quindi faccio un pescino, quella è nuova, unico proprietario. No, stavamo parlando di quella che c'è Elio, che l'ho praticamente uscita da qua, però anche se ha fatto due giri, sono giri buoni, capito? Perché chi ce l'aveva l'ha operata bene, quindi no, non ci sono problemi, capito? Allora, sono operato bene, vanno bene, non so. E ti d'accordo con Elio, già ce l'hai il numero, perciò è una bella macchina. Sì, vabbè, dimmi che non ha Stefano, il mobiliere non è proprio più, la verità, quindi dimmi che non ha Stefano, se tu va bene, sì, va bene, Stefano, con il D, si è a posto, vengo un momentino. Sono qua Claudio, scusate, mi sono perso il telegiornale, sto pranzando. Buona serata. Cosa stiamo usando adesso? Sempre l'Omega? Sì, Omega MB più 5. Sto parlando di lato adesso, amico. Così sono mezzo metro, dai, mezzo metro. Marco, la formula di Giulio, ti dico, lampada di tutto. Nel senso, metti dentro l'armadio, tieni questa. Tieni questa, non hai bisogno di amplificatore, non hai bisogno di niente. Bellissima modulazione, corposa, potenza quanto ne vuoi, molto bella, veramente molto bella. E io, vabbè, ma questa radio non la uso mai, può fare TVI questa me ne voglio disfare, non la uso mai, è sempre ferma. Perciò quel giorno stava ronzando, perché c'erano i condensatori scarichi da un bel tempo. Adesso invece vedo che sta pompando bene, dai. Bellissima, anche la modulazione è molto bella, il segnale è fortissimo, si è oltre 9,35, ben forte, vabbè. Avanti Piuma. Ciao Marco, me l'ha portato, l'ho detto che non c'è. Va bene, dai. Prima ce l'ha per me la fare, più penso che questo è... Ho detto di adesso, prima che se la metterà, quindi la vuole adesso, la prende lui, ma perché se no sta la pistola, se la mette in rete, la prende lui, quindi. A me lo sai, no? Te l'ho detto, io mi c'ho il 440, ci ho speso due soldini per farlo televisionare, la Bianconi, e c'ho questo per la 27 e il 430 di scorta, lo accendo ogni tanto così cambio l'antenna, lo faccio andare, mi piace più il 440, ok, anche perché c'ha 100 memorie, quindi c'ho tutti i canali dall'1 all'80 sempre sotto controllo, eccetera eccetera. Se no me l'avrei preso, alla grande, se non avessi avuto il 440 me l'avrei preso, capito? L'avrei detto, quindi domani mattina sto salendo, andiamo assieme, me lo prendo, però a me non serve, io, è inutile fare doppioni, abbiamo già bucato tutto quello che non serviva, finalmente, dopo tanti anni, che mi, mi attaccavano tutta la mondezza che c'era, tutta la roba vintage che ho regalato a Roberto. Roberto mi ha dato questo 440 che però era da mettere a posto, praticamente solito difetto del 440. Mi ha mandato su, 200 euro speso, e mi ha messo tutto a posto. Nuovo, revisionato, la radio in perfetto stato, ottima, non ha graffi, non ha niente, frontalino nuovissimo, funziona tutto, e quindi mi tengo questa per la 27, io se non ti ripeto me l'avrei preso, alla grande. Antonè, digli addio, perché guarda, se mi credi, ho una bella macchina 450, bella veramente. Professore, ma ti voglio andare con la macchina, io lo sai con la macchina c'è un garage, quindi sono quello, anche i soldi, c'è soldi contanti, quindi sono avanti. Quindi mi così, e così l'ho preso, se no pazienza. Così è, te lo sto dicendo, presto abbordabilissimo, prendetelo. Poi c'è, passi qua, te lo memorizzo io, lo faccio io come funziona, lo conosco perfettamente. E non hai problemi. Mettiamo tutta la 27, dal canale 1 al canale 80, e tu sia a posto. Filtri intanto li puoi inserire e disinserire, però li mettiamo in automatico, perché quella è la bellezza di quella radio, che c'ha i filtri che puoi mettere in automatico, capito? Va molto bene. È meno grande del quanto è 440, 450, sono uguali, però è più bella, la differenza dell'850 che è un barrasone, funziona peggio rispetto al 450, no, ma il 450 è più selettiva. Marco Scorpio, ma quando stai pipistrello volatile? Marco Condo, ma qui te la faccio gestire qua. Ma sto mangiando. Ehi, attaccalo. Questo che cos'era? Il baracchino, no? Ehi. Non sai che ti ho 450 comunque, non è finito per farvelo. Io c'erano, vabbè, questo è il 20, lui. Sì, sì. E attaccalo io ogni tanto, se fai due chiacchiere con lui qua in 27 attacca. Attaccalo perché è sempre meglio quello semi digitale. Io ho l'altra radio, è sempre ferma, ogni tanto ti ripeto l'attacco perché non si sa mai, neanche uno aveva detto di attaccarla, di usarla, o uno là, non può si fare sempre giambe di antenna. Va bene. Quanto l'hai venduta tanto nella Polo? Ma guarda che è già pronto, non devo attaccare la Polo, c'è solo. Guarda che mi sto scelto. Benissimo. 9.30 radio 5. Senti, tanto un po', questo è 4.5. Sì, sempre guarda come poco fa, come preciso è. Lo so, però questo è stato l'altro, così ti dico. Aspetta, non c'è un microfono amplificato da attaccargli? No, sto usando quel quattro dell'MC80, l'altro dell'MC60. Come esci là? Cambi le radio, non cambia il prodotto, Antonio. Io a volte inverto 433-340, non si accorge nessuno, microfono uguale, radio sono uguali. Forse qualcuno mi ha detto che spinge un po' di più il 430, ma anche perché il 440 lo tengo a 1 al Mickey Gay, se lo metto a 3 come il 430 chiaramente spinge di più. Però Gianfranco non vuole, dice che lo faccio sordo, capito? Poi mi analizza, dice che sto uscendo fuori, troppo alti, troppo bassi. Questo è Gianfranco, vero? Ah, tocca il microfono se non stai uscendo. Non stai uscendo. Tocca il microfono, l'MC60, locca. Se è così mi suicido. No, segnale è quello. È l'MC60 che lui non usa mai, detto mille volte. Poi quando si guasta si rompe la mondezza. Toccalo sotto, fallo andare, tocca sopra, locca. C'è quello che non deve toccare, tu invece puoi toccare, locca. L'MC70 è un casino, Antonio, credimi. Guarda, io ne ho tre. due fanno sempre lo stesso difetto, ogni tanto si blocca, allora lo devo sollevare, toccare sotto e riprende e riparte, mentre questo invece è nuovo perché l'ho comprato nuovo e difetti non ne fa, ma quando ce li hai tanti anni iniziano a difettare, capite? Sì. Lo ricordi, no? Infatti tu quando ti hai fatto C80 mi hai detto oh, me voglio aver cessato perché difettano, poi col tempo ti avevi attaccato il Sadelta, te lo ricordi? Appunto. Io vedi, ho buono l'altro microfono. Ascolta, Edio, non volevo fare tante figure, metti gli amici, metti il saluto mio, che c'è tu. Ragazzi, quello siamo a posto, non cambia niente. Corso. Come è fatto sul frente, Marco Condo, come esce, Tom. Buono, oggi abbiamo mangiato pesce, filetto di merluzzo con i capperi, mi sono mangiato, ho lucidato la padella anche col pane, adesso pomodori sto mangiando. Sì, questa è una bella accoppiata, soprattutto il 5 che può regolare i toni, bella accoppiata. Guarda, questo apparato è bello proprio perché ha due spinotti, uno da 6 per il mic originale e quello da 4 per tutti i microfoni che vuoi mettere. Non esce Elio, non esce, tocca sopra dove c'è la tattura di impedenza, tocca lì, tocca sotto, chiudi la terra. Oh, ecco, è lì che si blocca, sopra, il tattino dove c'è 50-500, quello si blocca, sì, adesso stai uscendo. Adesso non stai uscendo. Adesso. Eia. Non credo proprio, guarda. Cosa? Stai uscendo basso. Perché il tattino l'ho messo dall'altra parte, o più là. Non l'ho messo, perché non va, l'ho messo sotto. Allora non amplifica più. Allora è andato. Allora bisogna controllare. Praticamente lo sto usando senza amplificazione, Antonio, hai capito? Siccome c'ha il microfono mio, siccome è tonto, allora, Elio, siccome c'ha il microfono quello mio, se ce l'hai ancora, gli agganci quello, a quei 4,50, esci perfetto, prova e non c'è problema. Ti sa bene cosa sto parlando io, mi hai capito che tu. Attacca quello. Ah, c'è Isabelta col connettore che vuole fare, Isabelta spinge. Isabelta spinge, va bene. Ecco, c'è io, quello è attaccato a 80, secondo te. Ce l'ha lui, che ce l'ho io. Io l'ho tornato tutto il matto. Furto che l'ha matto quello, Cazzo, furto che l'ha matto, Sì, questo è passibile proprio di denuncia, Ma lo perdono perché lui mi si è passati parecchi mesi ormai io lascio la pinocchio il microfono saletto un po' che lo usi poi il resto non mi interessa niente. Ma ti sei tutto c'è, aspetta, voi c'è, prova un po', solleva, sollevato 1, 2, 3, 4, 5 e allora adesso già stai spingendo. No, Antonio l'ha detto che quel Savelta è il suo. No, questo Savelta non è il suo, questo qua era di Stefano che era in mezzo alla macchina, in mezzo alla fogna quando si è legato usa. E lui l'ha pulito e me l'ha regalato. Sono già dimenticato. Allora, aspetta un attimino che il compressore mi ha blu. Guarda, non ti vuoi rispondere male perché sono educato, ma comunque sia, Savelta, quello che c'è l'osso è il mio, la verità si dica, comunque sia. Quindi, ti ho lasciato perché non me ne hai fatto nulla, la verità, ma che mi dici tanto che l'hai pagato con la donna non è possibile, perché non lo era, quindi l'ha conosciuto Claudio, che quando io ho comprato con lei, in 80 ci ho messo quello immediatamente, e sei che lì, anche incazzato addirittura, non sono l'altro. Noni, processore ho messo, come sta facendo col processore? Adesso va bene. Allora, ti sto dicendo una cosa, questo qua era quello che era in macchina di Stefano, quando c'è la gatta Olbia, e tu gli hai tolto tutta la terra, e tu ce l'avevi uguale, l'hai fatto vedere, questo è tutto arrugginito perché l'hai messo all'acqua e la terra di Olbia, lascia verde che si giovane il gatto. No, quello che vuoi dire, a me non mi sbatte niente, ce l'hai e basta, non è che mi sto riproverando, no? Però adesso usci bene come si deve, grazie a Dio. Questo è il 450 con questo microfono, poi gli amici 60 da vicino all'altro, però è collegato al senso 2000. Comunque, questo qua, da CT. Bello, bello. Allora vedi che usci bene quando vuoi, allora vedi. Adesso sei una persona cristiana. Vabbè, comunque, questo è l'apparato con lo, che si tiene in vendita, non questo, è uguale. Questo è tutto, ciao. Oh dai, io vi saluto, racconta la cena, sono già le 9:10. No, no, ma va bene, poi chiaramente Antonello si fa gli accorgimenti, se non va bene Saletta ne mette un altro, va bene anche con l'MC85, il 450, va bene con un sacco di microfoni, certo per me non cambia, a me va bene sempre il 60. Va bene, dai, ci sentiamo domani signori, ciao a tutti, ciao Marco, ciao Antonello, ciao Elio, chiunque fosse in ascolto, ciao ciao. Però io parto dal presupposto che questa radio non si possono detenere, punto, quindi io lo so, se lo volete mettere spento a me fa piacere, se lo accendete so che voli voi. Buonasera a tutti, buonasera. Che la cedete a me? No, a chi lo compra? Ciao. A motopompa. Non ho capito cosa vuol dire, ci avessi rispetto. Allora, la fabbrica allora, fai che sta vendendo, è giusto? Se lo compro io, non ho capito, aspetta. Cazzo, non mi cambio Antonello, Antonello. No, mi sembra che mi stavo rilacciando una cosa del genere, a un certo punto. Non ho capito niente, sono stato un po' così... Dimmi. Come ti vede di ti tratta, dentro me? Claudio, non ho capito una mazza questo ragazzo, ricordami che già era piccolo, più vecchio e peggio è. Dai, passa anche il QRT, io non lo sto vendendo io, lo stanno vendendo questa persona che è stato usato pochissimo, io l'ho visto ed è veramente ottimo, nuovo, l'ho acceso, l'ho provato, è ottimo, è come il mio, è stato che il mio è più usato perché l'ho usato io, questa cosa sarà stato usato forse 100 volte, l'ho acceso in tutti gli anni che ha. Ho capito questo. Ok, va bene, non ti problemi, non ti preoccupare. Mi sa parecchio, funziona bene, quello che è, lo prendo subito, se no rimane lì dov'è, amico tuo. Però è un apparato radio amatoriale, punto, io vi sto dicendo questo, non è un apparato che si può usare nel 27, poi fate quello che volete. Con questo vi saluto, passo in QRT, ciao. Aspetta, frena, quindi il 27 non posso usarlo io, e cosa me ne faccio allora? Mi attacca il culo? Ehi, te la attacchi al culo infatti! No, allora se la piglia in culo, è un baracchino, 300 euro, cioè lui è la parecchia, se la attacca al culo, non me ne frega niente a un certo punto, 700 euro, scusa, ho pigliato 140, 320 euro e ho avuto un sacco di cose, ma già pigliato un 4, come dici tu, 4,50 quello che è, o 4,40, che su mie, e non sono a 27, cosa me lo tengo a fare? A culo un attacco, no, lo tengo a casa e se la piglia in culo a un certo punto. Allora, modifica va bene, se no pazienza, a meno che non trovo qualcuno che mi faccia la modifica e me lo porto direttamente modificato, se no se la via in culo a un certo punto. Io sto parlando di contanti, soldi contanti, no? Contanti sono tanti. A me cioè, a me la fai così, come se non ho una macchina e che mi manca una candela, che cazzo scorsi sono. È già ubriaco mi. No, è malato, non è ubriaco, è malato forte. È sicuro. Non è capitato niente, signor Pompugno. Ti sto dicendo che è un apparato che va bene a parlare anche 27. Ok, ascolta, Antonio. Punto. Non hai capito quanto vuoi dire, Antonio. Non dire parolacce, c'è gente che sta ascoltando. Mamma mia, che... Poi ci siamo maleducati sul canale 10. Ti sta dicendo che la radio funziona da 0 a 30 e aperta anche in 27, per la 27. Però ti sta dicendo che è un apparato amatoriale. Occhio, punto. Ah no, il numero quando ho capito io, dico, no, il 27 non va, solo per quello, non per altro. Dico, cioè, cosa me ne faccio un apparecchio che direttamente quando va il 27, in AM, no? Non mi sta bene, solo quello lì, non per altro. Ah, va bene, 27, non hai capito quello che ti volevo dire, vabbè, io vado a cenare, quando l'hai capito il telefono, mica te lo spiego. O scrivimi una lettera, ciao. Fagli uno schizzetto, un disegnino, non si capisce. Ciao, quelli per me. Ciao, ciao a tutti. Non c'è nessun bisogno, già lo sai, per quello. Ma ancora qua siete? Siamo ancora qua. Ehi, qua siamo. Ma come mai? Perché non ci vogliono dare da mangiare stasera. Dai, io ci ho mangiato una pizza. Aspettiamo, facciamo ora e poi andiamo a dormire. E fai bene, tu sì che sei casalingo, io adesso faccio cena o poi me ne vado a ballare. Sempre pizza mangi, Sempre pizza mangi. Sempre prima mangi, adesso ho smesso. Ogni tanto, ma cosa fai sempre pizza? Avevo smesso, sembra l'ultima una spesa. E poi sempre in pizza, no? Ho mangiato ieri e oggi, ma adesso stavo altre 10 ore senza mangiare. Guarda, e poi te lo metti tu, non lo metto io, eh. Ho pizza, sono al circo, a mangiare il pesce. Io non ho messo niente, la verità. Io lo so. Al circo vado a bermi la birra fresca. Ah, ecco, infatti. Adesso ho mangiato la pizza, una birretta me l'avrei bevuta, una lattina. Non mi ha preso, ma ho bevuto acqua. Va bene. E dopo va bene, quando arrivo a casa. Avanti, Marco. Marco è sparito. Aspetta che trovo l'MC60. Adesso ho capito cos'è che c'aveva. Come sto uscendo? Già va bene, ma adesso mi vengono tutti, ma non è che ce la fai con tu quello? Non lo capito, no? Come è stata con la MC60? Ma in quella fai che mi stavo trovando? Questo è il mio apparato, che va 4,50 con le MC60, punto. Oggi Pompone è una scena, mi? Se non è bevuto, vabbè, ciao, buona serata a tutti, guarditi. No, non è venuto il dubbio di teatro di turba, di teatro. Signorina, tu i turbi. Oi. Bene, ho finito di mangiare, dai. Comunque mi piace come esce questo apparato, veramente bello. Claudio, ci sei? Claudio ha chiuso. Claudio ha chiuso? Eia, che hanno chiuso. Eia, vabbè Antonio, già, lo sai che si scherza. No, semplicemente, come dicono tutti, no? È un apparecchio amatoriale, quindi insomma un po' di cautela. Come questo apparato, questo non è omologato, quindi devo fare un po' di cautela usandolo, non soprattutto in macchina. Non è omologato, tutto lì. E tu polemiche, cazzo. E certo che io faccio polemiche, cazzo. Luigi lo sai sempre, no? Mi conosci, grazie a Dio. Cazzo. Sì. Ma alla fine, detto tra noi, a cosa serve un HF se tanto dobbiamo parlare 27, Antonè? Non stai più nemmeno andando in 45 metri. Allora andiamoci, almeno lo sfruttiamo. No, non ho ragione. E quello che voglio fare infatti? Poi mi voglio fare qui per avere 45 litri. Poi a me di quello che pensavo che non mi fatto niente, lo sai, no? Vendo gli apparecchi che ho, non metto niente. Ehi, ehi, HI, HI. Bene, scusa, mi è scappato. Si sente, non si preoccupare. Beh, troviato hai. Rutto. Ah, maialone. Intanto la dottoressa glielo faccio, buah! E lui salute. Eia. Luca, ma tu la stai sempre facendo quella roba al computer, cellulare, stai sempre aggiustando, sì? Quando ce n'è, sì. Ah, quando ce n'è, vabbè, quello sì. Guarda, se io non vivessi... Mi vuoi mettermi? E già sale. E se non ci fosse mamma, io che fine avrei fatto? Sarei stato barbone, sarei stato. Lo so. Se non ci lavora è un casino. C'è chi è fortunato e c'è chi è sfortunato come me. Vabbè, comunque, già non si muore. Ma ormai non ho vizi, dai. Luca. Oh già. C'ho un computer Acer. Quanto si può vedere? 200 euro? Di quelli grandi. Come mi fa per la pesantezza? Vediamo te cos'è questo operativo. 8.1. Mamma mia, Windows 8, per carità. Ma io ne ho venduto uno di mia cognata, nuovo, fiammante, ma nuovo però. L'ho usato quasi niente. 150 euro. Ma nuovo. Manco nulla, guarda, era manco un graffio. Perché lo usava... Cioè l'ha usato due volte. Poi ha detto che si è comprato il telefono nuovo, cioè quello dello smartphone. E se l'ha voluto prendere. Ma nuovo. Capito, l'ho usato un mese. Dopo che è stato ricoverato, quindi figurati tu. Nuovo. Sono a casa io. Un Acer, 8.1, quindi 200 euro va benissimo. Perché è un... Penso che è la verità. E va bene, come computer. Nuovo. Non è stato usato. Se no ha funzionato 6 mesi, non di più. Anche 6 mesi. Non mi piace di comunque sia. E beh, scioccato è Luca. No, penso, per 200 euro, e nuovo lo giù il computer. Ha te regalato, la verità. Mi aveva pagato 300 e passa euro, l'aveva pagato, nel frattempo. Prima di ricoverarsi, figurati tu. Ehi, ormai... Siamo arrivati a Windows 8, no scusa 8, Windows 10, e lì è indietro di due sistemi operativi, Antonè. Però magari c'è qualcuno che preferisce l'8 anziché il 10 e vuol pagare poco, no? Dovresti metterlo sull'occasione, dovresti metterlo in posti del genere, no? Più subito.it, no? È tutto lì, se no a voce così non lo vendi mai. E vabbè, comunque un giapponese 8.1, ma è stato usato. Poi si può anche scaricare Windows 10, che è peggio la verità. Un sacco di gente si è lamentata, perché non va bene Windows 10, non accetta più i programmi di prima, quindi è un casino. Qui stanno tutti quanti in prodotto la Windows 7, eccetera, eccetera, a un certo punto. Quindi, vero, cioè andare più avanti sembrava una cosa bella, invece non è assolutamente vero. Eia, però prova Antone che poi prendi un sistema operativo già datato, non dico obsoleto, il mio obsoleto, già datato, non lo so. Purtroppo ormai per esempio tutti i portatili che trovi in vendita tutti hanno Windows 10, che è l'ultimo uscito, tutti. Cioè, se uno si prende un computer nuovo, si deve carrare quello lì, quel sistema operativo. Ma l'importante è che funzioni, cioè che ti faccia navigare, che ti faccia ricevere posta, che ti faccia vedere video su YouTube, quelle cose lì principali servono, che ti permette di chattare, va bene? Immagino di sì. E per il resto cosa vuoi fare? A meno che non fai funzioni spinte, acquisizione video in alta definizione, boh, non lo so. Vabbè, comunque quel prezzo è buono, dai, cioè sei appetibile, capito? Ci può prendere. Ma tu c'hai anche la scatola, tutto il sistema operativo su disco, tutto c'hai? La scatola non ho, cioè solamente il computer e basta, l'alimentatore è buono, c'ho altro. Perché lo vuole, non lo vuole, neanche un graffio, mai usato. Se lui lavora ancora 6 mesi, mio fratello. La scatola sta capponessa perché mi ha solo attivato, ci ha dato tutto già, cioè, Giovanna, già lo sai. C'aveva la caratura, la custodia con le pelle, la decisione dentro, tutto ci ha buttato. Eia. Antonio, sai cos'è? Un attimino, se non hai il disco, il sistema operativo sul disco, per caso devi reinstallare tutto, come fai? Avanti chi chiama Marco, avanti. Caspita, sei aumentato, stai arrivando 9 o giù di lì, premi la portante muta e poi parla. Allora, Santiago 8 con picchia 9.5, Santiago 8 picchia 9.5, di lusso, cosa hai fatto? Cosa hai toccato? Qua è 9.10 a Natalino. Guarda Natali, c'è un abisso, prima eri Santiago 2, adesso sei modulati 9.5, non tocchese nulla, non tocchese. Hai visto cosa vuol dire trovare la posizione giusta? Vedi, è da Poponio quanto arrivi, Poponio quanto ti arriva Natalino? Poponio? Poponio, è andato a inumidirsi la gola, dai. Natalino! Ah, qua arrivi benissimo, Stasera è un po' più basso, 5 di segnale, adesso sei 9, 10, è abbondante. Di lusso, va bene, perfetta. Ecco la tua zona, Natalino. No? Adesso sì. Tu bene che ascolti a me. Natali, che apparato è? Un appo compreso, dai. Buono, dai. Poi il segnale adesso non c'è paragone, caspita. Incredibile la differenza, abissale direi. Certe volte mi chiedo se la bazooka uscirà così bene. Non lo so se uscirà così bene, perché la bazooka è quasi un carico fittizio, mentre quella che usi adesso è un'antenna vera che irradia, capito? E vabbè, deciderai, dai. Comunque, caspita, io ci avrei, riuscendo a piazzarla, ci avrei messo una mezz'onda lì, lo sai. È dritta, non ha radiali, e irradia bene anche lì. Dritta, tutto, tanto in altezza cosa occupa? Niente in altezza. Bene, bene. Ehi a Luca, poi anche mamma qua imbezzendemi, non fa altro che cadere, perché lei non ha i riflessi, diciamo, di una giovane, no? Quando cade malamente tipo sacco di patate, poi le fa male molto, sai che cosa? L'anca, ha l'artrosi dell'anca e si vuole operare, così le mettono la protesi e può camminare bene di nuovo. Perché lì è facile la caduta, poi sai come appoggia il peso sulla, cadendo sulla gamba, le fa male, quindi cade, poco da fare. Ya? Proviamolo, facciamo così, siccome qua c'ho ricezione e trasmissione assieme sul clarifier, prima ti centro io e poi mi centri tu con la ricezione solo. Ricordati, centrami col clarifier. Parla tu, vai. Ah, USB, USB. Centrato, Natali, centrami tu. Aspetta che metto la potenza, ecco. Centrami tu, Natali. Questa roba. Aspetta un po', c'è qualcosa da nulla. Ah? No, c'è un problema, c'è una specie di soffio, di innesco in banda laterale, Natalino, non va bene. E purtroppo questi baracchini sono un attimo male, troppo delicati, troppi problemi. Eia, e purtroppo li vantavano tanto, aspetta che abbasso la potenza. 4 watt. Questi apparecchi americani li vantano tanto. Dicono che il rame della pista, dei circuiti sono più grossi, sono fatti in un rame particolare, invece danno belli problemi. Sono troppo delicati, caspita, me ne sono accorto adesso, io prima non me ne ero accorto. Non è da vendere, no, assolutamente non è da vendere questo. Io te l'appoggio. E io te la spingo. Grazie caro, ma sto cenando. Un minuto e niente. Io te la tolgo. Molto meglio di prima. Segnale. Poi adesso non ti porti il fruscio. No, beh, a te ti arriva molto più forte, Marco. Qua arriva 5-6. Ehi, guarda, prima era Santiago 3 modulati. Santiago 3, adesso è 9 più 5 modulato. Ha cambiato proprio abissale la cosa, Ma glielo ho detto, se trova la posizione giusta, io sono molto distante da lui, E con tutto che ha l'antenna interna arriva a 5-6. Eia, visto. Dicevo, lui potrebbe mettere, se il palo è abbastanza fisso, se è tenuto bene, il palo principale, una mezz'onda che non ha radiali, occupa solo in altezza, e alla fine radia bene lo stesso, Altro che bazooka, La bazooka è un carico fittizio. Eia, ma guarda un po' che in banda laterale c'era quel problema. Me ne sono reso conto adesso. Allora, sia l'uno che l'altro apparato, stesse cose, stessi problemi, ma io non capisco come mai. Sono andati male, cioè vanno bene in AM, però negli altri modi di emissione c'erano piccoli problemi. E ce l'ho da poco, mi cioè trattati come reliquie, eppure sono fatti male, cioè sono cafonate americane, capito? Cafonate americane. Ma di quale stai parlando? Del megaposto? Ehi, questo qui. Andiamo a banda laterale, vedo che mettendo la potenza giusta, banda laterale. Natalino mi sentiva, ma manda una specie di soffio, vuoi sentire? Prova, USB. Aspetta che alzo la potenza, la metto, non dico manetta. Guarda, ho messo nello smitter e vedo una specie di soffio, di innesco. Guarda, adesso l'ho portata tutta, Mi se senti qualcosa. Non senti nulla. Ma quindi va bene là. Cioè sta uscendo bene così. Passa in AM là. Non sento niente. Si sente tipo una ventola. Quello è. Non ci deve essere nessuna ventola lì. A meno che non sia. No. No, non è la ventola dell'emettatore. Quella ventola non ci deve essere, assolutamente. Deve salire solo quando moduli. Invece mi sale lo smitter a 8, a 7, 8 di segnale, perché c'è un fruscio nell'emissione. Altro lo stesso, stessi problemi, Ma io credo di aver risolto, invece se ne risolve uno, No, non è da vendere, Claudio. Non è da vendere, escono bene in AM, però... 4 watt, escono bene in AM, sono fatti per l'AM, però poi banda laterale non sono perfetti, diciamo, dai. Non so, si sente un fruscio, però sembra qualcosa di vento, qualcosa del genere. Oh dai, io continuo a mangiare, vi sto ascoltando, comunque, sentiamolo. Aspetta Claudio, prova adesso, sia che davvero microfono troppo amplificato da tavolo sente la ventola dell'apparato, riprova. Non c'entra niente. Allora, 1, 2, 3, sale un po', sale un po' lo stesso, ma rispetto a prima sale meno, e beh com'è 1, 2, 3, 1, 2, 3? Eia, sì, Natalino mi conferma che mi sente benissimo. Allora, vabbè, trovate, ecco qua. E vabbè, diciamo sì, sono per la M sti apparati più che altro. Quelle bande laterali, un po' così, così così. Però Natalino io lo sento bene. Vabbè, dai, signori, io chiuderei, da. Guardo qualche film in televisione. Oggi è sabato, boh, non so cosa ci sia. Ci sentiamo domani, dai. Mi sa che se mi giro le balle lo levo di nuovo, questo apparato lo rimetto nell'armadio, dove è giusto che sia, mi. Mica va bene, mi. Adesso con il microfono normale andava benissimo, Marco. Forse c'era troppa più amplificazione. Mi, se vuoi, c'è Maria De Filippi che ha rottura di balle. Cosa mi guardo io adesso? Ah, e quindi hai il televisore occupato. Te l'ho detto, ti ci voleva il trasmettitore di un video e tu nella camera dove sei tu adesso, nel computer, nelle radio ti vedevi altre cose, capito? C'è Bologna, Napoli, a me la partita mi avevo visto qualche film, adesso mi viene l'ansia. Ma io te l'ho detto Claudio, cioè trovali, comprali questi trasmettitori. E che almeno, vedi, anche oggi sei rimasto fregato. E ne abbiamo parlato già 2 o 3 settimane fa, di quelli. Vedi, chi aspetta poi non guarda le partite. Sì, domani gli altri curvola tutti per Juventus Inter. Oh, non ce la faccio, di mattina sono al lavoro, Marco. Oggi stavo lavorando, stasera, vabbè, potevo uscire, negligenza mia. Posso anche andare domani a prendere, non è un problema quello. Però devo uscire di pomeriggio e andare a prenderli, capito? Però durante la settimana è un casino, perché sto rientrando un bel tardi. Sto rientrando un bel tardi e quindi non ho voglia di uscire, capito? Però devo farlo per forza, vai. Bravo. Vado, vi saluto, QRT per me. Buonanotte a tutti, a domani. Buona domenica a todos. Ciao. Antonio, fai da bravo. Ciao Claudio, dai, buona serata per modo di dire, senza partita. Guardati la De Filippi, per carità. Ciao, domani. Io lo stesso chiudo, mi guardo qualcosa in TV. Antonè, io lascio acceso comunque qua, lascio acceso sul 10 fino a stanotte che dormo. E non sia che qualcuno chiami, capito? Comenta lo squelce e lascio acceso. Ciao Antonè, buona serata con tutto. Ma tu la TV la guardi, Antonè, o no? Certo che la guardo, secondo te la guardo Maria Filippi la sera? No, non la di Filippi, guardi qualcos'altro, no? Cioè, in generale, tu la guardi la TV o no? O non la segui tanto? Già la guardo, non ti preoccupare, voglio che la guardo. Marco! Oia! Ma tu c'eri poco fa in ascolto? Certo, ho parlato anche. Ci riesci a rispondermi a un audio? Certo, certamente. Un attimino che lo prendo. Sì, prendilo, ti devo fare una domanda. Ciao Antonelli, ci sentiamo, dai, che chiudo. Ciao ciao. E via, non c'è problema. A domani, ciao. Cosa, Tatarì? corretto cosa hai detto? Anche io me ne sono già andato. Dai, cerca di migliorare ancora un pelino, siamo a posto. Ciao. Lo sento anch'io, sta tempo 5-6 apparino. Strano, Jimmy. Adesso lo sento. Uguale a me, anche qua arriva 5-6. Allora, stai imbavolando. Adesso ti sento. Cazzo, sento, non parla, ma è allucinante. Lo senti? Cazzo, lo battuca, sento, allucinante. Allah Akbar, Allah Akbar. Chi è? Lo voglia, chi è? Cazzo, sento le bu... roba turca, allucinante. Cosa? Sento le canzoni turche, è una cosa già, sono il telefono 5-6. Adesso non ti capisco. Sento roba turca, Santiago 5-6 ho detto. Di segnale. Cosa va turchi? Cosa va turchi? Vabbè. No, stavo mandando un audio a Marco, volevo una conferma di una cosa. Va bene. Va bene, va bene. Vedo così, sono contento. Sento popolazione araba, cioè non deve essere roba turca la verità. Perché non è possibile a tal roba. Sentiamo 5-6 di colpo ogni tanto. Ciao Antonè, dai, chiudo. Stavo mandando un messaggio a Marco Congo. E niente. No. Mi guardo un po' di TV e poi vediamo cosa succede. Va bene, non c'è problema, già sono qua, all'ascolto. KK, sempre canale 10, la forza motrice della 27, oramai è canale 10, tutto il resto è noia. Sì, vabbè, c'ho tutti e due, al limite, non è problema per quello. L'altro giorno stavo usando il... anzi, l'altro giorno, dimenticato... Ma ne ho tutti e due sopra il quartetto, ho usato la frequenza marina, la verità. 8, meno male, sono andato bene, se no sarei stato sopra il tetto tutto il giorno, lì buttato come un imbecille. Ma dove? Di là la scala di ciocca? Eia, si è pegato il palo, sai dove è il palo pigiato, ma chi è che ti ha preso Sassari lì? Dal vento. Un casino, perché quando è telescopico non ce la fai, cioè una volta lo scendi giù. Che ti scopri, comincia a fargli a sollevarlo, un casino, ci scendi giù, hai capito? E quindi ho dovuto tirare tiranti insieme a Giuseppe e fare la presa di compromesso per il momento, adesso, poi si vedrà adesso, una volta che va via questa perturbazione, cerchiamo di sistemare tutto, perché non è possibile, c'è le due elementi che sono a posto, le due elementi sono piegati in giù, quindi il palo tende a piegare su giù, quindi non scende, hai capito? Purtroppo il telescopio è così, fatto male a pigliarlo così con il palo telescopico, se no guarda, se avessi saputo che avrei fatto qualcosa del genere, neanche preso la vecchia. Il telescopico se si impiega non scivola, non cammina, come fai? Casino. Fateci voglio quei telescopici robusti che non piegano, capito? Allora, e quindi non l'hai piazzata l'antenna a questo qua? Sì, l'ho sollevata perché ti ho dato i tiranti vecchi. L'ho piazzata un pochettino, ma non è che ci vuole, non molto. Non è stato perdere più che altro perché sta già facendo vento. Adesso la prossima settimana ho raggiunto del tutto, li cambio i due elementi, anzi un elemento e mezzo che c'è da cambiare e il resto glielo lascio. Adesso vediamo un po', ci parlo con Giuseppe, vediamo tutto. Cava, cava, vabbè, metti qualcosa di robusto, capito? Ma il piantone è un po' debole, però infilare qualche tubo zingato d'acqua, magari da mezzo pollice, in modo che non pieghi col vento. E se piega poi non ti scivola, non cammina, è un casino. Tocca a togliere tutto. Sì, ma non hai visto una cosa del genere in vita mia. Dove c'è la cimiteria? Mai visto una cosa così? Non ti parlo, guarda, arrivato un anno, due anni, tre anni, quello che so, quattro, cinque, quello che so. Ah, non è mai successo niente. Quest'anno, come ha fatto quel vento, di terra allucinante, mi era piegato. Tu figurati il palo del tetto di cui tu già l'hai visto anche tu, non è che se sono mette io sono allucinato. Quello c'è un fatto allo spino, l'ha piegato, dove c'è il semaforo, l'ha piegato dall'altra parte. Sì, tu hai detto non scherzo, il vento non è vento, il vento. Non era molto forte ieri, era il biccio, però il biccio maledetto. Ma mi fa un sacco di danno il biccio, non per un maestrale, greccale, errante, pemente, la tramontana, non... ma il biccio prende di fianco, fa un sacco di casino, non so se mi ha rotto la tenda. L'ultimo, quello forte addirittura era riuscito a girare la direttiva, colpa mia che però il piantone della gabbia non era stretto, poi quando è fatto una bella giornata sono salito con la chiave al cricchetto e ho stretto bene i dadi che mantengono la gabbia, capite? Però dico, il peso c'è, i tiranti ci sono, è riuscito a girarla 50-60 gradi la spostata, quindi il vento è micidiale. Quando bisogna fare i lavori bisogna farli bene, mettere buoni tubi soprattutto, e l'ancoraggio è fatto bene, perché se no ti fotte maledizione. Poi noi siamo in alto, Antonè, è un casino, non pensare alle scale di ciocca lì dove hai fatto quel lavoro tu. Lì c'è quello, hai visto quello spazio che c'è tra una e l'altra, lì entra un vento allucinante. Infatti me ne sono accorto, quando ho finito il lavoro insieme a Giuseppe è cominciato questo vento forte. Giuseppe si è spaventato, ha detto, guarda, è una cosa normale, ha detto questa qui, ho detto. E tu vai, se vedi che tu palo, adesso te lo blocco. Alziamo un pochettino, poi ho detto, al limite, quando passa, ho detto, questa bufera, ho detto, sistemiamo, ho detto, basta, tu lì. Infatti così ho detto, a padrone, proprio che venga adesso, la fine, più che altro. Ancora qua siete? Sì, siamo ancora qua. Bravi, bravi, un attimino. Riprendete, dai. C'è solo un film con Verdone, non dei più belli, ma non lo so se guardarmelo. Ma sta sulle spalle sto Verdone. I film di Verdone fanno... come non mi piacciono. Sempre le stesse cose. Sì, Antonio, perché poi da Libeccio, hai capito, Libeccio arrivando dal Ghero, la punta di Scala di Ciocca, la parte la prende in pieno, dove c'è quel canale di tra la galleria e l'altra. Ma prende in pieno a me l'invece mi arriva dalla fronte strada, no? Ma è dannoso, altri venti non li temo, ma l'invece è una rottura di scatto, capito? Una rottura di scatto, quindi immaginate lì che lo vidi in pieno, di fianco lì proprio nel canalone ti arriva a raffiche, poi l'invece è maledetto e fa raffiche allucinanti, è peggio maestrale. Il biccio cacciale, mi puzzi, non ci rivegliano. E quindi ti riguarderà Verdone. Che film è di Verdone? Quello con Asia Argento, dove lei fa la ragazza in sedia a rotelle, no? Vabbè, non è dei più belli. Belli erano tipo un sacco bello, Bianco, Rosso e Verdone, quelli anni 80. Adesso, vabbè, un po' meno, poi gli ultimi non ne parliamo. Ormai è finita l'era Verdone, il Verdone come lo conoscevo io. Però non c'è altro di roba interessante. C'è un film di orrore ma non mi interessa. C'è un film con Steven Seagal con i baffoni che ormai è morendi, non mi interessa nemmeno quello. Non c'è un granché, dai. Potrei guardarmi uno dei miei film scaricati, perché ne ho una marea da guardare. Però non mi decido mai, capito? Perché vanno preparati, li devi mettere sulla chiavetta, capito? Dal computer alla chiavetta li devi mettere. E vabbè. Eia. Allora, ho provato di nuovo col microfono normale, col suo che non è normale, è amplificato. Sì, appena lo fa questo giro soffio lieve, ma non è preoccupante la cosa, dai. Non è preoccupante. Però per dire, il 3009 non ne fa di queste cosette qui. Quella proprio come primi, portante muta, assolutamente muta. Non dà soffietti, non dà niente. No, per il resto già se la cava come radio. Ripeto, più che altro è fatta per la M, per la M. C'è poco da fare. Scusate. Salute. È Tricu. Eia, però stai tranquillo perché io non lo sento, non l'ho sentito. Provate anche a commutare con l'altra radio, non ho sentito niente. Mentre con il microfono preamplificato sì, è troppo, soffia troppo, mentre quello normale va bene. E beh, la foto che ti ho mandato non me l'hai commentata. L'ho vista, ma quella foto l'hai presa da internet, perché non è una foto fatta col telefonino, vero? Allora, è da internet. Oh, quella bestia però, Ma tu hai detto che ti eri stufato delle HF così e di nuovo hai comprato radio, com'è possibile? Marco, ne ho venduto 4 di HF. Vedi che poi qua sono soli. Qui te lo faccio sentire io dove arriva il soffio me. Si sente? Auguria, si sente. Stavo dicendo, ho venduto 4 HF, ho venduto il 1200, ho venduto il 2000, ho venduto il 920, ho venduto il 140, ho venduto il C80, ho venduto il radio, ho venduto un bel, quindi tutta quella cifra era disponibile, capito? Tutto. È chiaro che poi alla fine ne prendi una e basta. E prendi una e basta. Io ho ottenuto il 756 per 2 e basta. Adesso ho fatto quel passo, mi dai il culo. Ma quella è, quella rimane. Ma anche se non la usi, però stai ascoltando a livello di Ferrari, capito? Non stai ascoltando Mombetta. Se senti come riceve con la radio, micidiale. Noi micidiali, stavamo facendo io Massimiliano, che c'era anche un video su YouTube micidiale, è una cosa spaventosa. Eia. Oh, già è comodo il microfono da tavolo, volendo, mani libere, invece stare sempre a pigiare. Parli tranquillamente. Guarda, oggi mi è piaciuto anche il pranzo, la cena come orario, no? Quel merluzzo cosa era? Fatto con i capperi, buono. Tra l'altro mi sono col pane, ho fatto la scarpetta, ho lucidato la pentola, il piatto lucidato. Poi pomodori, salta i pomodori, una banana che quella non deve mai mancare. Non fare battute, mi pompone, è un budinetto piccolo al cream caramel e questo è il mio pranzo. Ti piacciono le banane? Io molto più leggero di te. Va bene. Dopo poi, quindi questo amplificatore quando glielo restituisci a Tino. Faceva due. Ma senti il scontino. In pratica è tuo. Quando vuole si unitiva. Mi ha già pagato finito l'istituto. Ma ce l'hai ancora tu però. Non sai tirato lui. Non è che sono stato io, non taglio. È lui che non sai tirato. E la radio invece è quella tua però. Sì, questa qui. è la mia. Però sì, ma le Sianove lo stai pilotando con quel lineare oppure da solo? Adesso da solo. Aspetta due secondi. Adesso con lineare. Ma da un po'. Abbiamo qualcosa? Sì, il cambio è una satura, mentre invece quel lineare lì mi piace molto con la tua, l'altra, non il Magnum, il 3009, è una cannonata. Proprio non ti accorgi che sei agganciato, capito? Invece qua te ne accorgi perché va leggermente in saturazione. Il discorso che avevamo l'altro giorno, te lo ricordi? Auguri, mica sono corto, ce la faccio. Sono qualcuno di 4.000 in pratica, con Di Marco. Con Di Marco va benissimo, con quel lineale. Il prodotto sta bene, veramente bene, è un bel allineamento. Quello che ti ha detto anche Marco, e ti abbiamo detto tutti. Comunque, 4.000 è una cannonata, anche come modulazione, come tutto. Non te ne accorgi, se io me ne accorgo perché vedo la variazione di segnale. Tu sei 50, sganciato, quando agganci vai dove c'è il DB. Capito? Sopra la punta del 60, oltre la punta del 60, quindi me ne accorgo per quello, se no, se non guardo lo Smith non me ne accorgo, perché la radio con 4.000 rimane bella, invariata, pulita, mentre con questo qua, col Magnum, quando agganci leggermente vai a saturare, vai sul 60 però vai leggermente a saturare, vero Marco? Sì, confermo, satura anche di brutto qua. Allora, domanda per Pomponio, adesso con quanti watt stai pilotando il lineare? Sa, dovrebbe essere 7 watt quelle con le 4.000, la retta. Dove siamo la retta, quindi sono 7 watt, una cosa del genere. Per quello satura, credo. Sempre io ripeto il mio esempio, il mio lineretto ha un ingresso in M di 10 watt. Se lo piloto con 10 satura, con 8, con 7, satura sempre. Ho provato 7 watt, se non li ho provato, con 5 watt non satura. Però se tu lo piloti con circa 10 watt, da 90 watt. Ma sporchi, se tu lo piloti con 5 ne dà 80, ma puliti, quello è il problema. Bisogna pilotarlo sempre con, almeno nel mio caso, lo devo pilotare con la metà o meno dei watt d'ingresso, perché altrimenti satura, c'è poco da dire, questo è col mio lineare, poi con gli altri non lo so. Ho capito, ma comunque adesso sono a posto, non sono mica satura, non sto mica usando il lineare, sono liscio. Ma Antonio, ma tu mi capisci? Quando attacchi sei saturo, tappo del tapponadu, dovresti pilotarlo con meno watt, così non satura. Insomma, Claudio. Aspetta, non hai capito tutto quello che voglio dire io. Allora, uno è il Condes 4000, l'altro è il Magnum S9. Io metto il Magnum S9 a manettone, ma trascorsatelo, quello c'è ragione anche tu. Cioè, uso invece il Condes 4000 che ha 7 watt, quello esce bene, il discorso è quello tu, il discorso. Allora, cosa faccio adesso? Metto il Magnum S9, lo metto a 1 di watt, e siamo a posto. Non piange nessuno. Però c'è anche da dire che come il mio, l'S9, anche se tu metti, per esempio, io ho messo 4 watt di portante muta, no? Il problema è che modulando, mi dà roba di 20 watt. Quindi non è la portante butta magari i 4 watt in ingresso che li dai, no? Che satura, ma è la modulazione, i picchi di modulazione che lo fanno saturare, capito Antone? Cioè non è un baracchino normale che esce 4 watt modulati o portante butta come il 3009, quello spinge molto in modulazione, perciò satura, capito? Ti dà dei picchi tali di watt che gli entrano di più nel lineare. Ho capito, non ti preoccupare. Oh, giusto Claudio, mi sta correndo a vedersi la De Filippi, mi lui zitto. No, se non vai la De Filippi, mi stavo accendendo una sigaretta. sì, anche questo, no, questo Omega Force lì, anche se io metto 4 watt, no? e attacco il mio lineare, saturerà lo stesso, perché in picchi di modulazione ne ho almeno 10 e quindi satura comunque. È tutto là, dai. No, ma comunque spero che sia chiaro per Antonello, cioè io Antonello ti sto dicendo che con il Cornex, anche se sia agganciato, vai molto ma molto meglio rispetto al Magnum, a meno che il Magnum non gli abbassi leggermente la potenza, e quindi secondo me dovrebbe andare ancora meglio. Ho capito, comprendo il messaggio che lo sai, ma sono tonto, grazie a Dio. Tu, sempre tu, cioè sei tonto. Ti sto dando un consiglio, secondo il mio parere, a prove fatte, il Comex 4000 rispetto al Magnum, quando si è agganciato va meglio. Andare, allora uso quello. E puoi usare tutte e due, Antonè, che ti stai dicendo di no? E puoi usare tutte e due, però magari abbassando leggermente ancora di più l'ingresso sull'amplificatore, vedrai che va bene, perché il Magnum senza amplificatore va benissimo, capito? Però prevale quello là quando si è agganciato, è più chiara la modulazione. Allora, senta mia, l'altro giorno, se ti ricordi bene, stavo usando il Magnum 69, e tu perché con quel microfono stai usando il tuo 4, mi hai detto va benissimo, facendo bene, tutto lì. Oggi invece ho usato il lineare, quando sono 10 minuti, 4 minuti, quello che è, l'ho scaricato tutto. Sembra che sia un giorno sì, un giorno no, uno esce bene, l'altro esce male, quindi la gira. Adesso il lineare sta a capo, quindi dopo due non ce ne sto, a un certo punto, vabbè, c'ho anche la voce rauca. Per dire perché ho preso freddo, ieri e avanti ieri. Marco già lo sa, siamo usciti assieme, quindi c'è una voce rauca. Sì, ma col Magnum tu adesso cosa stai usando? Il microfono da tavolo? Il MB4 col Magnum, sì, esatto. Va bene, che ti stai dicendo che va male? Assolutamente, va benissimo. Allora, ok, non c'è problema. Tutto va bene. Senza lì, adesso, liscio. Va bene, va bene. Però ti ripeto, quella del Conex 4000 rispetto al Magnum c'ha qualcosa di più chiaro, è leggermente più chiara la modulazione. Non rimane, nel senso che c'è più tonalità alta, più acuti, mentre col Magnum c'è più tonalità bassa. Ma niente di particolare, nel senso che sono chiare tutte e due, però agganciato il Comex rimane più chiara la modulazione rispetto al Magnum, capito? E la stessa cosa, ti ricordi bene, è come avere il 140 prima che stavo usando, che c'è in garage, ti ricordi bene che ti metto no, con il più 4 c'è i più bassi, invece con il 2009 e il costaletta c'è più alto, tutto lì, ti ricordi così, mi hai detto tu, quindi la stessa identica cosa. Sì, è proprio questione di timbre che ha da una radio all'altro, comunque va bene, non c'è problema. Mentre Marco invece tutti i baracchini che aveva provato per me vanno benissimo. Eccezionale quella del Megaforce, bellissima quella modulazione, molto molto completa mi Marco, capito? Sì. Ebbene, mi è scappato il tasto. Sì, questa è una accoppiata vincente. Il tono, ripeto, a metà, non ho toccato nulla per non influire sulla timbrica dell'apparato. Poi io non so se faccia, non dico TVI, magari entra in qualche cassa di serio di computer, quello potrebbe fare, perché non è un apparecchio omologato, tutto. Sono spuri, questi apparecchi come gli Alan 48 modificati, buttano un bel di spuri, hai capito? Per esempio Gianfranco direbbe che questa emissione è troppo larga per i suoi canoni, capito? Bene, aspetta, mollami, senti il pip che è penetrante, è anche fastidioso. Vabbè, non è fastidioso. Si pone chi sia Antonello, allora che Antonello è 4. Signor Moretta, hai avuto rispetto? Non c'è un UCB che sia omologato, Moretta. Perché è vero, eh? Ho preso anche io. Io dal 1987 che uso questa radio. Capito? Ho iniziato con l'FT 757, poi ho comprato il 757 GX2 e poi da Mario Notare avevo comprato il primo 430. Capito? Quindi a me non me ne ha fatto nulla. Io uso la radio che mi pare e mi piace. Non devo chiedere permesso a nessuno. Quindi ognuno è libero di fare quello che vuole e si assume le proprie responsabilità. Io mi assumo le mie e gli altri si assumono le sue. Che cacchio me ne frega mai. Appunto per quello. Tu dice da, se fuori, se qua, non me ne frega niente. Se tu vai a controllare tutti gli apparecchi che vendono 500 euro per dire, della Midland, verificati dopo il duratore con la giara, cioè non lo sa, questo è quello, non puoi controllare la giara con rispetto, non puoi fare nulla, sono tutti quanti che sono abusivi in giuria, cioè quella parte sono mondezza, 500 euro, 700 euro, sono mondezza, questo è quello. Non c'è la parico strano, sono tutte a manda larga, non tutte a manda stretta, tutte a manda larga. Che hanno una pesa allucinante, ma non è possibile usare i 27, cioè come una casa, ma dove è limite in macchina, perché non c'è nessun problema, in bagno, ma se ho preso in casa sei morto, molto sì, forse non ho più televisore. Lo so, ma guarda, io problemi TV non ne ho mai avuto, perciò questa funziona bene, sempre questo è usato e questi uso e continuerò a usare sempre. Mi fianco c'è anche l'altra, non me la fottendo mai di quello che fanno gli altri. Io non vado a chiedere cosa stai usando, cosa la stai usando, se però, come hai detto tu, facciamo un riscontro, siamo tutti fuori legge, quindi di cosa ti devi preoccupare per me? Boh. Lascia perdere, gente che dice chi fa la concessione non ha, io conto corrente alla mano sempre, ogni anno, quest'anno figurati, ho fatto prima quella della 27 che quella amatoriale, che avevo proprio deciso di non farne, mi farò birata blu più, tanto paghi sui scefi, invece poi fai uno più uno, rifletti, conti sino a 10 e fai le cose fatte bene, gava gava. Caro Marco, io avrei tenuto quello, Marco, gli altri l'avrei messi a posto, capito? Cosa? Se non fai TV con gli altri, perché vi fai TV con quella? Beh, perché per esempio il 3009 dentro anche quel filtrino anti-TV, questa proprio non ha nessun tipo di filtrato, non è filtrata. Poi questa è un apparecchio che butta fuori spuri, è risaputo, per quello. E io, prima avevo sentito Elio che parlava della detenzione della radio, no? Che poi, diciamo, la detenzione, come l'acquisto è libera, cioè detenzione vuol dire compri l'apparecchio e lo lasci nella scatola, o senza scatola, dentro l'armadio, in una vetrina, quello è detenere, però quando uno l'attacca all'alimentazione e all'antenna, quello è uso, quindi la detenzione è sempre ammessa, come l'acquisto, tu lo compri e lo tieni in scatola, e l'uso quello sanzionabile, capito? Cioè quando tu l'attacchi all'antenna e all'alimentatore, capito Antonè? Certo, ho capito, aspetta un secondo. Per chi non ha la licenza, ma io ho la licenza, quindi posso detenere e usare, nel senso che posso tenere attaccato anche con le antenne, chiaro che qua non posso trasmettere con questa, ma comunque, differenza vostra è diversa, voi dovete stare un po' più con gli occhi aperti, ma questo dipende sempre da chi si fa l'undicesimo comandamento, solo che purtroppo c'è gente che non se lo fa e quindi continuiamo a tenere sempre nel tranello, ma a me poco mi interessa. Cosa stavo dicendo? Ma sarei curioso di fartelo sentire da qua, quello mega fosso, lo sai. Ci mettiamo d'accordo, una mattina o un pomeriggio, ci vediamo. Ma dov'è? Lo attacco qua, con il tuo stesso microfono però, Come lo stai usando adesso? Te lo voglio far sentire da qua, con la mia voce, a vedere cosa ne pensi. Sì, sì, si può fare, io non ne ho problemi. Ti posso portare Omega e microfono, questo qui, che ha la batteria anche carica, ve l'ho appena caricata. Perché io, per non comprare batterie da 9 volt ogni volta, ho comprato quelle da 8,4 ricaricabili, quando è carica ne ha 9 volt quando è carica. E quindi non compro più batterie da 9 per i microfoni, a meno che proprio non ne voglia avere una tanto per averla io. E voglio proprio sentire come esce. E però devi lasciare le postazioni che ho messo io, tipo, che so, microfono a 7, ma che è una manetta della radio e senza turbo modulatore però. Poi se lo volessi mettere per prova si può fare, però così più limpida, senza il turbo modulatore più limpida, K. Infatti ce l'aveva Sandro, cioè Sandro ce l'aveva uguale questa radio, infatti usciva bello forte. E già me lo ricordo, non ho saputo toccare niente, e se no non c'è gusto. Proprio farti capire quella differenza tra la tua modulazione e la mia, capito? Così come è regolato, così come ce l'hai tu, ci mettiamo d'accordo un pomeriggio, me lo porti e te lo faccio sentire. Sono sicuro che cambia tantissimo, perché la mia timbrica spinge molto di più rispetto alla tua. Se consideri che io sto proprio, sono a 30-40 cm da MC60 e sto proprio a bassissima voce, però mi accorgo che spinge molto la timbrica, capito? Caspita, io adesso sono a 35 centimetri, 35 centimetri dal mic. Ti ho detto, regolato a 7, se alzo a 8 non ne parliamo, ancora più forte. Tu, ti piace a 10, io lo lascio a 10, caspita, poco sale. Però così senti anche volare i moscerini, capito? Così anche troppo. Però dillo la verità, è bella così, no? È una potenza, no? Bella, a me poi piace la modulazione, bella, corposa, bella, sì sì. È bella sì. Beh, a 10 io lo farei scoppiare con la radio. A 7, 8 è più che sufficiente, anche a 7. Ma sono sicuro che anche a 7 è troppo per me, più abbassarla a 6. Comunque la facciamo questa prova. Lo facciamo e vediamo un po' come esce. Poi facciamo queste prove. E beh, Antone, e tanto cosa stai maneggiando? Aspetta, lo dico subito, senti? C'è una selettiva civile. Ti sento, sì. Sì, sì, quella è una selettiva civile, sì, sì, sì. Sì. Ah, sono civili quei portatili che mi avevi detto. Ehi, si sente, sì. Cioè, guarda, ti cazzo è un po' di base. Più che altro. Però l'apparecchio sto qua e... Guarda, senti. Ma lo ecciti tu il porto della selettiva? Sì, non c'è nessuno. Avete anche nessuno. Non è nessuno. Sta zitta. Non c'è nessuno. Cioè, sì, sono porte civile, così è. Sì, esatto, sì, esatto, sì. 159 qualcosa. Sì, Marco, sono ponti civili. Sono ponti civili, che bisogna vedere che aziende ci sono, se sono in uso. noi ce l'avevamo prima quando era ESA, era 161,9, no 161,875, 800, 865, 900, 161. Ed eravamo attivo in ponte, a Monterrasio. A Monterrasio e a Monte Alvaro c'era anche quella dell'Officina Toretana, poi dicevi, molto il titolare dell'Officina Toretana l'hanno evocato tutto, peccato che... Senti, senti, ma il microfono 10, turbo modulatore inserito. Così è veramente, eh? Caspita quanto sale, abbozzami. C'è una bomba, eh. Sembra che stai usando un kimbo, davvero, mi non sto scherzando. Ehi, ma così è tutto a 10, eh. Cioè, ma che viene l'apparato a manetta. Sto parlando piano, ma se parlo normale, guarda, guarda come sale. Ma strappa la modulazione. No, così devo togliere l'NB. Se no mi vai a strappare, capito? Senza l'NB invece non strappo, ma è fortissima, bella. Aspetta, aspetta, io vado in bagno un attimino, lo parlo da lì. Sta trasmettendo, sì, un attimo. Claudio, mi senti dal bagno? Sto parlando dal bagno, sono proprio sul gabinetto, vi faccio sentire anche questo. Adesso torno lì. Vedevi se hai sentito il gabinetto? Il gabinetto scorre, l'hai sentito? Che schifo! L'acqua si è in veno. Tu sei allucinante, guarda. Il tipico pipistrello che trasmette da Roncomulo. Ma mi sentivi quando ti ho detto sono in bagno? Devo dire, si è sentito anche l'acqua. Oi oi, bello è però, guarda, parlo poco e sale a 9,20 la portante, caspita, bello bello, dai, già ti divertirai, è come avere una lanquarantotomi di quelli belli toici. Una modulazione allucinante, c'è, fortissima, mi sembra che stai usando un MC60, no Antonè? È uguale, ma guarda cosa allucinante, ma guarda qua è acceso, ho sentito quando scaricava, ti ricordi l'SBE che c'avevo io, il Verizzino, uguale, che scendevo, ti ricordi la scalinata, come dicevo, fino alla, da Pierluigi su, fino alla, al quinto piano, uguale, che c'avevo portante con l'FT7B, no, no, non 7B, l'altro, 2,50, è una cosa allucinante. Sì, era un ricordo quello nero, un'altra bestia, ma lascia bene un bel microfono, io ce l'ho uno dentro l'armadio, c'è un po' da rivedere la capsula che ogni tanto esce e non esce, si interrompe, ce l'ho dentro l'armadio assieme all'altro Turner, però è un bel microfono combinato a determinate radio, funziona bene. Io ho il cavo più 2 dal tavolo che è abbinato al DAC ed è una canonata, meglio del tavolo più 3, perché il tavolo più 3 spinge troppo, invece questo spinge di meno e funziona bene, funziona benissimo. Uia uia, Marco, bella radio comunque quella, quella è una bella radio, no, sono curioso di fartela sentire davvero, così ti rendi conto, perché usandola tu e chiedendo dei controlli magari non capisci se effettivamente ti può piacere o meno, ma se te la faccio sentire io tu stai convinto che quella radio te la tieni molto molto stretta. Ehi, adesso ho abbassato un po', a 7 M più 5 e il resto senza turbomodulatore, dai, perché non voglio che faccia troppo casino, dai. Ok, può essere, sai perché? Questa è macchina, è molto utile. In macchina, caspita, non hai bisogno di lineare, né di amplificato, nulla, usi il suo mic ed è un bijou. E infatti valuteremo, sai, perché adesso è inverno, no? In macchina non esco tanto, ma in estate, caspita, con l'antenna lunga, questo è un bijou, in macchina. Ok, dai, riprendi un po' pompogno, dai. Metto un attimo, sicuramente è andato a beverarsi. Di birra, non di acqua. Ah? Di birra, non di acqua. Acqua, acqua. Tanto ci come tanto hanno beve solo birra. L'ho visto anch'io bere acqua, bere aranciata, bere Coca-Cola. Oh, è incredibile. Quando è con me beve solo esclusivamente birra. Sì, l'avevo visto l'altro giorno. Il barbato. Perché costa di più per fare pagare a te, invece quando è con me beve aranciata. Non è così, sta tranquillo. Era gratis quando ho bevuto il banco. No, guarda, giuro, io non ho mai visto bere acqua o bibite, sempre birra, che paghi lui o che paghi io, sempre birra, è incredibile, guarda. E vabbè, dai, no, mi piace, già l'hai visto in pizzeria, Coca-Cola, con la pizza d'obbligo la Coca-Cola, voi magari prendevate birra, chi vino, io Coca-Cola, la morte sua è... Bevo Coca-Cola o birra o vino bianco, bevo io con la pizza. Vino bianco non sia molto, molto forte, va bene, perché la birra mi gonfia subito, poi magari non mangio ancora la pizza. Però io una volta quando vado a Antonello e scendiamo giù da Andrea, poi ci facciamo Antonello, due di quelle piccole per uno, no? Sì, anche quattro a volte. Il mio problema è quello. Certo, il birra aveva bevuto, grazie a Dio. Siamo stati sempre bene. La Coca-Cola fa male, lo sai, sì. E peggio della birra, perché fa male al fegato. La verità, perché se tu ti vedi una Coca-Cola mischiata insieme a una bistecca con lo che non è a te, ma con la bistecca insomma, Marco, te lo dico io, non bevi più. Invece Pomponio si è scandalizzato quando siamo andati al circolo in via Torino, no? Si è scandalizzato, cioè scandalizzato, mi ero preso un bicchierino di gin, no? Che è poco, no? Un bicchierino di gin, quello molto aromatico, no? Veramente buono era. E io ho detto, gustalo con le labbra, gustalo appena, è buono. Oh no, no, non tocco io di quella roba fa male. Cazzo, era una quantità infima, poi gli ho detto, bagnati le labbra, non bere nemmeno il sorso, bagnati le labbra così senti com'è. No, no, no, non voglio mischiare niente io, se no visto cosa succede. Ma per me lo bere gin. Ehi, gin, gin. Ah, non mi sento quello di gin, cos'è? Non mi sia qua vite. Eia, poi sai com'è, siccome lui magari aveva bevuto birra non voleva mischiare, ma bastava bagnarsi le labbra ogni tanto per sentire il sapore. Comunque quel gin lì è molto buono, si chiama Bombay Sapphire ed è un gin particolarmente aromatico e profumato, molto molto buono. Quello piace anche alle donne, mi, come gin. Io invece da parte ho il gin normale della Gordon's, quello è gin secco proprio, è dry gin. Però non è male, è fatto dalle bacche del ginepro, praticamente, il gin, infatti ha quel sapore tipico. A me piace il gin lemon, capito? Quello già mi piace, limonata col gin, gin fizz, queste cose. Ma vabbè, bevo queste cose, sono da anni che non le tocco più, bevo solo vino e buh. Basta, manco birra, mi d'estate sì, qualche bicchiere di birra me la faccio, perché magari c'è il 7, non sai cosa bere, eccetera. Però se c'è un bel frizzantino fresco è più buono, mi pare, a me no. Sì. Non c'entra a fare. Non c'entra a fare, io da quando sono in quella zona di Palese lo sto prendo lì, a Trinità, 5 litri alla settimana. Ma sono tranquillissimo, mi dura, a volte me ne avanza anche, perché a pranzo e a cena io due bicchieri me li bevo, niente da fare, capito? Magari poi mi alzo domani, c'è la partita, come dice mio genero, la bottiglia, quella piccola da litro, vai, mangiando e bevendo. poi venne mangiando, gira gira, ci parte quasi sempre una volta c'è la partita. Però quando sono da solo, due bicchieri a pranzo, due bicchieri a cena, è più che sufficiente, vino rosso, buono, cazzo di vino Trinità è micidiale. Sempre campagna di Palese, poi lo vende uno di Trinità e lo compro lì, capito? Perché qua se ne fa schifo il vino. Comunque tu avevi detto che la birra gonfia, no? Magari con la pizza e anche la Coca-Cola gonfia, è tutto aria, tutto gas, infatti certe volte se ne bevi troppa non riesci a finire la pizza perché ti riempie lo stomaco di gas, scappa. Ma te l'hai tanto meglio, però la Coca-Cola fa più male della birra. Coca-Cola troppi acidi, c'è una cosa allucinante. È buona per carità, però io una volta che sono andato al Mac, sai, a McDonald's, micidiale per i bambini, c'era questa coppia, loro due, sai, quei bicchieri di plastica piccoli, con la Coca-Cola, al figlio il maxi bicchiere, quello grande, un bambinetto, avrà avuto 6 anni, 6, 7 anni. E ne morì ancora, capito? Si è bevuto quella e ne voleva ancora, mangiando quei panini schifosi. Mamma, ma come si fa? Cioè, Coca-Cola è un'arma proprio micidiale per i bambini. Non capiscono i genitori. Perché è abbastanza, non sapore acido, però buca lo stomaco. A lungo andare la Coca-Cola, a me ogni tanto faceva bruciori perché insomma va usata con cautela anche quella. La birra, guarda, io la birra non la bevo tanto, ma quella birra limone è un bijou, è buonissima. Avevo provato la Moretti, ma avevo provato anche la birra limone di Lidl o di Eurospin, non mi ricordo se era Lidl o Eurospin, era più economica, ma era buonissima, buonissima, quella era veramente degna di nota. Cioè io la birra limone mangiando la pizza la prenderei a occhi chiusi. Non è capire buona, mi piace la Corona, e quella è una birra, però mi piace un bel forte. E cosa ti stavo dicendo? No, ma è proprio omicidiale, non fa bene. Mi piace te quando c'hai sette, prova a fare la Coca-Cola ghiaccio arancio o ghiaccio limone, è omicidiale. Però non è una cosa che fa bene, capito? Assolutamente. Non è una cosa che fa bene. Ti ripeto, la birra è più... non lo so, può fare male, ma la Coca-Cola per chi ha la gastrite, la colite, il reflusso gastroesofageo, vedoci. Eia, quanti gradi è la Corona, grosso modo? Non me lo ricordo, ma è massiccia, massiccia è. Antonè, tu che sei un intellettuale di birra, la Corona molto alta di grado. Tu è andata bene adesso. Tu hai mai assaggiato la Bière du Démon, la birra del demonio, 12 gradi. È una specie di birra rossa, no? Ed è 12 gradi, è molto dolce come birra, infatti è buona per me. E la vendono in bottigliette piccole, bottigliette da 33 centilitri, perché se no ti sbronzi subito con quella, 12 gradi. Felice, che un giorno uno spuntino, mi pare a Nullio, se mi ricordo, cioè Nullio, sì. Non c'era più vino nelle bucate di questa birra nera, mamma mia che schifo che... Nera, mamma mia, quella è la Guinness. Quella è amara come il fiele, sembra petrolio, ha il sapore del petrolio, no, quella è cattiva, ma quella lì è buona. Guarda, assieme alla Dudamon c'è anche la Delirium Tremens, si chiama così, Delirium Tremens, è lo stesso, è una birra un po' dolcina, molto gassata anche, e ci avrà lo stesso 11 gradi, quella ti cuoce subito, ed è anche dolce, mi. Ah. No, io non sono amante della birra, però io bevo, piace un bel vino. Vino lo bevo, a pranzo, fuori pranzo, per dire se vado a fare un aperitivo, verso l'una, mezzogiorno e mezza, preferisco un bel vino, un cagnolari, una cosa del genere, che è più un campari, queste cagate che fanno male, capito? Un bel vino rosso, due patatine, due noccioline. E ti hai fatto un aperitivo. Campari, ma frami, mamma, il Campari Soda, mamma mia. Qua il Campari Soda non ce l'ho presente. Ce l'ho presente il Campari normale, ma cos'è se il Campari Soda? Campari Soda si chiama, che ci va la soda, va. Allora quanto fa male quello, mamma mia. Beh, diciamo che io l'ho assaggiato ma non stravedo per i Campari. No, piuttosto che i Campari preferisco i normali vermouth, martini, quelle cose leggere, i martini bianco, quelli sono più buoni, però il Campari no, non lo so perché. C'è un retrogusto amarognolo che mi fa venire quasi il mal di testa, non so se è presente. Mi dice Maria, come chi è? Antonello, ve lo portate, esce, ve lo portate, lo senti Marco? Sì, un po' bassino ma lo sento. Come sei, lo comodo quello tu? Oh, ma sta tappavino. No, anche a me piace il martini bianco, mi piace tantissimo, anche il martini rosso, ghiaccio arancio, sono cose belle, l'aperol, capito? Lo stesso, zucchero e limone, sono cose che fanno, sono sempre andate. Ma quando ero ragazzino io c'era il rosso antico, il punta messa, mia cottura che Sant'Antonio mio, il bianco sarti. Ti ricordi il bianco sarti? Ma esiste ancora questo bianco sarti? Non l'ho più visto, no? Sì, esiste, già esiste, sì. Ma guardate, ci sono tutti, c'è il Ponte Messi, c'è il Rosso Antico, c'è il Bianco Sarti, vedo Villa Cidro Murgia, dice un Villa Cidro, che è molto meglio della Sambuca, è più aromatizzato, fa meno male, però alla fine sono tutte stronzate, ma allora ragazzo io, il Ponte Messi, il Rosso Antico, il Bianco Sarti, cazzo ci scendevano come l'acqua, andavano al supermercato a comprare una bottiglia di quella roba, ci levavamo al porto, ce la ci levavamo tutta. Oi oi, ascolta, e come amari, come amaro, che tipo di amaro ti piace? Tipo, che ne so, Jägermeister, quell'altro amaro, come si chiama? Quello che sa di uva. C'è un amaro che sa di uva, il Montenegro può essere, proprio a sapore di uva, mia, è buonissimo. Che cazzo, Montenegro è micidiale, Montenegro ghiaccio arancio è micidiale, quello mi piace, magari vedi a cena così, pizzeria, digestivo, ve lo offriamo, sì, Montenegro, vabbè, mano mezza cara, Ramazzotti, il Cinar, il, cosa ti posso dire, boh, il Jägermeister, sono tutti amari che a me non piacciono. Yeah. Ma mi confermi, è quello che sa di uva, perché mia zia me l'ha detto, dice guarda questo amaro me l'aveva fatto assaggiare, sa proprio di uva fresca, mi spermuta, caspita era un bijou era, è probabile che sia quello, perché non riesco a ricordare il nome. Ascolta, il Fernet invece com'è? Io l'avevo assaggiato, mi sembrava medicina, cazzo, medicina cattiva, proprio era cattivo. Non mi ricordo se era il Fernet o cosa era. Il Fernet, mamma mia, io. Cioè il Fernet è l'unicum, quello che c'ha la croce, quello è proprio, bevi quello sei già morto. Oh, Montenegro, mi sa che ne compro una bottiglia. Visto che ho qualcosa insomma da parte e la tengo per gli ospiti, poi me la ciuccio tutta io e via e vabbè, meno male. E il crodino com'è? Però il crodino è analcolico, vero? È buono, ma è come un volgare bitter, no? Però è buonino, insomma, ci mettono il limone o l'arancio, non mi ricordo. Sì, ma sono tutte stronzate. Sono tutte stronzate, ti ripeto, io un bel aperitivo preferisco più un bicchiere di vino. Uno spumantino o qualcosa del genere, ma no. Però c'è un vino, un caniolario, a volte prendo il un costera, capisci? Uno di quelli. Va bene, un buon aperitivo. Mangi due salattini, due cosette, più di prendere queste cose qua che magari fanno male. Ma senti Maria De Filippi. Che non fa sesso, perché le dai. Che palle quel programma. Anche Gianni mi piglia in giro. Dillo che sei andato a vederti la De Filippi. Passa via. Ogni tanto l'ho guardato, ma è un pianisteo continuo quel programma, dai. È un programma da fare. Solo etero può fare, perché è un incrocio tra un maschio e una donna. Sembra un travestito, un tefea, che quando cammina sembra la tiracca di Camboni. Eia, certo che... Caspita, lei come ha trovato Costanzo, ha trovato l'America, ha fatto un bel programma in TV. Giusto perché lui era il direttore del Canale 5, l'aveva detto anche lei. Dice, se io non fossi sposato con Costanzo non avrei fatto TV praticamente. Ormai non ho quel tipo di TV. È una brava presentatrice, sai che a chi suoi, senza avere dubbi. Però fa cose troppo monotone, l'unica cosa che fa a me è quel programma di canto, che da lì poi diventano professionisti, vedi Emma Marrone, vedi cosa, come si chiama, Amoroso, tanti gruppi che ne sono usciti, vedi quella, come si chiama, Lavorate di Zorro, visto che è all'Isola dei Famosi, Moreno, ma quello, cioè, ma è Giuseppe, un cantante. Ah, sono tornato, sono venuto, sono andato a prendere, ma vai, è impiccati, speriamo se lo mangi qualche squalo all'Isola dei Famosi, che... ma te li mangi, c'è cioè uno che va a fare il cantante e poi va a fare l'Isola dei Famosi, ma vai a cantare. Moreno, ma chi è Moreno? Non ce l'ho presente, non lo ne guardo proprio io, non ne guardo nemmeno, è tutto un bisticcio anche lì. Guarda, questi programmi sono tutti incentrati sul contrasto, sul bisticcio. Come fanno queste attualità? Uno che si scorna con l'altro, all'Isola dei Famosi si scornano uno con l'altro. Lo stesso, sono fatti apposta per far vedere la gente che litiga, cioè che programma è? Boh. Moreno. Ma tu ricordami chi è questo Moreno? Quel rap che aveva vinto Amici, proprio quel programma di Maria De Filippi, quando è 2-3 anni fa, un ragazzo, un ragazzino, c'ha i baffi, vari baffi, cazzo, vari, un figlio di Zorro. No, lo conosco, a malapena lo conosco, figurati quanto ne tratto io. Io come rapper conosco quella specie di Fedez, quello che c'ha il collo tutto tatuato. Pure questi, bah, a rapper belli erano Eminem, quelli grandi, no? Questi piccini. Non mi ricordo niente questi, J-Ax, bravo, divertente anche. Più quelli americani. A Fedez, chi è questo Fedez? Poi questi tatuaggi, cazzo da, boh, da banda, quelle gang americane, mi. Vabbè. Fedez è uno, ma ce ne sono tanti altri più giù di lui. Però, sì, in questo programma vengono fuori dei professionisti, ti ripeto, tanti, che poi fanno strada. Sandro Amoroso è una bravissima cantante, però tu non la vedi fare queste cose che fanno, cioè i cantanti sono cantanti, devono cantare, non puoi andare all'Isola dei Famosi, prendono una barca di soldi, prendo, noi vado lì su Ceccherini, per carità di Dio, è andato lì, l'ha detto l'altro giorno, che è andato lì per vedere le donne, capito? è un pervertito, non viene bene a dirlo. C'è che linea adatto, c'è esso. Però quella faccia, mi, secondo me quello c'ha le occhiaie perché si ammazza di segami. C'è su Ceccherini, poi guarda da vedere allora, se c'è lui è da vedere. E su carrette la danno, la, l'isola dei bafosi. Su canale 5 ogni lunedì. Ogni lunedì su canale 5. No, ce n'è. Ehi, c'è Razze de Gan. Capito? C'è Razze de Gan, c'è quell'attrattore che era sparito, era riapparito. C'è, poi c'è uno che... recuperano tutti i detenuti. Adesso questa settimana sicuramente mandano via uno, perché hanno preso l'isola dei Favosi e non sapevano che aveva picchiato la moglie. La moglie l'ha denunciato, c'è un processo in corso. Castrati è andato all'isola dei Favosi. Ci sono belle donne, per carità. Sono belle donne. Ci volevo solo, guarda, che andassi all'isola dei Famosi, Vanna Marchi con la figlia, e così eravamo a posto. Meno male li hanno espulsi, non li hanno voluti, ma non il pubblico proprio, capito? Il pubblico non l'ha voluto, non li ha voluti queste due zingare che hanno truffato tutti i vecchi d'Italia, bovaracci. E poi, insomma, che nel 5 si è reso conto che stava facendo una tronzata. Per carità, che ormai Vanna Marchi è una megera, la figlia è fea lo stesso, non è una bella donna. Poi per come trattava le persone al telefono, che dicevano se non paga che gliele vengano tutti i mali del mondo, gente di merda, quelle non avrei, non solo non le avrei fatte andare all'isola, ma non le avrei più fatte vedere in TV, capito? Proprio sparite, non le avrei più invitate da nessuna parte, per carità. Truffatrici, guarda, seriali. Anzi, hanno fatto anche poca galera, mi secondo me. Io avrei lasciato dentro e buttato la chiave per tutto l'anno che hanno fatto a gente per bene, che ha fatto sacrifici, ne hanno pigliato tutto. Miserabili, non so, un patrimonio c'ha. Un patrimonio, non sono riusciti manco a quantificarlo di tutte le cose che c'ha, case, appartamenti. E una cosa allucinante. No, ma loro praticamente avevano chiesto al canale 5 se le facevano fare l'isola dei Famosi perché erano in una situazione economica un po' disagiata, capito? Perché non lavorando, le avevano messo sotto sequestro e hanno portato via tutto per poter restituire le cose che hanno rubato, no? Quindi e poi Striscia la Notizia invece cosa ha scoperto? Li ha scoperti facendo shopping nei migliori negozi di Milano, li ha scoperti in un ristorante, no ma niente, agli olio però, Aragosta, di tutto, capito, bevendo champagne, dice come? Vi siete dichiarati che siete in una situazione economica non molto bella e poi vi permettete di fare shopping nei migliori negozi, tutti e due in pelliccia di visone, ma non te nandi. Quelle avranno soldi nascosti, capito, gliene hanno beccato magari un bel po', però gli altri li hanno nascosti. Mamma mia, che ne si sa, conti su isole tipo le Cayman, dato quel brasiliano, mi, Don Nascimento, come ha sentito aria di manette e se ne è fuggito, ha fatto appena in tempo, mi. Quello chissà che fine ha fatto, però loro sono due vermi schifosi, so quando li ho visti, nel video che hanno fatto vedere a Striscia Notizia, che ha creduto la voglia di tirare la televisione a terra, mi